zanzara. Con Alessio Maurizi. 18 e 7 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, anche questa sera in diretta, in nostra compagnia con Laura Marchesi, Viola Bottoni in redazione e Valeria Bernardi in regia questa sera fino alle 20.30, 800 24 00 24, ma anche 349 238 6666, la zanzara et radio24.it. Iniziamo come ogni sera con i titoli, Sky TG24. Giornata nera per le borse, piazza affari a meno 3,6%, spread sopra 500 punti. Monti vola in Europa per incontri informali, Napolitano dice dimostrerà che siamo affidabili. Disoccupazione sempre più alta, un giovane su tre senza lavoro, mai così da 8 anni. A Roma sarà lutto cittadino dopo il duplice omicidio, sgomento tra i cinesi che dicono prendeteli. Trovato in un lago il cadavere del giovane scomparso, è giallo nel casertano. Ancora bombe in Iraq, oltre 60 morti e 100 feriti tra Baghdad e Nassiria. San Raffaele, l'imprenditore Rotelli, alza la posta a 405 milioni per rilevare l'istituto. X Factor stasera alla finale, per la prima volta sarà in tre dimensioni. Festa, ma che bella, ma che bella questa festa, ma che bella, ma che bella questa festa, questa festa, questa festa senza te. La festa di Mario Monti il 31 dicembre a Palazzo Chigi e la festa senza Roberto Calderoli, che se l'è presa evidentemente per non essere stato invitato, perché lo sapete, ieri sera Calderoli ha accusato il Presidente del Consiglio di aver usato la struttura pubblica di Palazzo Chigi per fare un veglione di fine anno a spese dello Stato e subito dopo però, addirittura chiedendo le dimissioni di Monti, Calderoli, l'ex ministro, subito dopo è arrivata la risposta di Monti nella serata di ieri. Molti giornali ce l'hanno oggi all'interno appunto delle loro pagine. Vale la pena di leggerla la risposta di Monti, perché è notevolmente ironica. Prima di tutto Monti precisa che non c'è stato alcun tipo di festeggiamento presso Palazzo Chigi, ma si è tenuta presso l'appartamento residenza di servizio del Presidente del Consiglio una semplice cena di natura privata dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore mezzanotte 0:15 del 1 gennaio 2012, alla quale hanno partecipato, e c'è l'elenco: Monti, moglie, figli e nipoti, più la sorella della moglie di Monti, totale 10 invitati oltre moglie e signora. Prosegue Monti: tutti gli invitati alla cena, che hanno trascorso a Roma il periodo dal 27 dicembre al 2 gennaio, risiedevano all'Hotel Nazionale, ovviamente a loro spese. Quindi primo punto: gli oneri della serata sono stati sostenuti personalmente da Mario Monti. Avete capito bene, la spesa l'ha fatta la moglie di Monti. Sentiamo che, come l'interrogante ricorderà, perché Calderoli farà un'interrogazione, ha rinunciato alle remunerazioni previste per la presidenza del Consiglio e come ministro dell'Economia e delle Finanze. Poi ancora, gli acquisti sono stati effettuati dalla signora Monti, e dice anche dove, bellissimo, a proprie spese presso alcuni negozi siti in Piazza Santa Emerenziana, non la conoscevo, Tortellini e Dolce, si specifica, e in via Cola di Rienzo lì ha comprato il cotechino e le lenticchie. Quindi cena a base di cotechino e lenticchie pagate dalla signora Monti, 10 invitati, ha cucinato lei, ha pagato lei. Insomma, lo spazio per questa interrogazione di Calderoli si restringe sempre di più. Cosa c'è ancora nella risposta di Monti? Ah sì, l'ironia finale. Dice: il presidente Monti non si sente tuttavia di escludere che, in relazione al numero relativamente elevato degli invitati, 10 ospiti, possano esservi stati per l'amministrazione di Palazzo Chigi oneri lievemente superiori a quelli abituali per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, acqua e gas. Cioè, dice Monti, alla fine forse avremmo gravato sulla bolletta per quel giorno lì. A questo punto, cari ascoltatori, la domanda è: ha risposto in maniera esauriente Monti con questa lunga lettera arrivata poche ore dopo la richiesta di Calderoli, oppure c'è ancora qualche lato da fugare? 800 24 0024 per intervenire in diretta. Se in paradiso io gli risposi con un sorriso, è molto meglio mia piccina, sono più in su, sono a Cortina. Cortina, gioie e dolori. Gioie per chi c'è stato in vacanza, dolori per chi si è beccato il controllo fiscale e anche per chi deve parlare di questa questione dei controlli delle agenzie delle entrate a Cortina. I giornali sono pieni di commenti, di commentatori. Vi voglio leggere velocemente due diverse lettere a confronto, pro e contro il blitz dell'agenzia delle entrate. Quella contro è arrivata a noi ed è di un ascoltatore che si chiama Marco, quella a favore è di Johannes Buchler, così si firma con uno pseudonimo sul Corriere della Sera in questa lettera. Cominciamo con Marco, che critica il blitz dell'agenzia delle entrate. Quello che è successo a Cortina con l'operazione propagandistica del fisco, un blitz quasi inutile per la lotta all'evasione, non è beccando 40 persone con il macchinone che si risolve il bilancio dell'agenzia delle entrate. I giornali riportano che alcuni possessori di auto di lusso avevano addirittura il bilancio in perdita. E che vuol dire? Quasi tutti i grandi gruppi industriali hanno chiuso in perdita, la Fiat, enormi banche, industrie di prim'ordine, ma non è per questo che i loro amministratori sono stati privati del compenso economico a loro spettante. Replica Johannes Buchler su il Corriere della Sera. No, non sono d'accordo. Se esiste Equitalia, se gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate passano il fine anno a Cortina d'Ampezzo, se c'è bisogno di uno strumento come Serpico, se in fondo lo Stato è stato costretto ad entrare a gamba tesa nella nostra privacy, lo dobbiamo a dati come questi. Su 41 milioni e mezzo di contribuenti, il 90,2% denuncia meno di 35.000 euro l'anno. Solo lo 0,17% denuncia redditi superiori ai 200.000 euro. In pratica, dove diavolo sono finiti i 200.000 cittadini che acquistano ogni anno auto di lusso? Ancora Marco, contrario con le sue critiche alla blitz di Cortina. C'è un ragionamento che il nostro fisco non riesce o non vuole fare, valutare le singole situazioni. Io, per esempio, acquistai una Porsche di oltre 10 anni e la utilizzavo nei weekend o poco più. Il mio reddito, evidentemente, mi consentiva di mantenerla. Ebbene, sono stato per questo un delinquente? E ancora, ci sono cicloamatori salariati con il minimo contrattuale di una fabbrica che utilizzano biciclette in carbonio da 6.000 euro. Oddio, sono evasori oppure no, perché la bicicletta non ha la targa? Conclusione dell'ascoltatore, del lettore, favorevole al blitz di Cortina. Smettiamola di prendercela con chi fa il suo dovere. Arrabbiamoci semmai con chi continua a utilizzare i servizi gentilmente offerti da una parte del paese. Qualche opinione su questa questione delle blitz di Cortina. Per esempio il nostro Oscar Giannino, che dice: non ce la faccio più di vedere presi di mira gli imprenditori come se fossero delinquenti. Lo scandalo quante volte maggiore sono gli 840 miliardi di spesa pubblica. Quello è lo scandalo che io voglio vedere affrontato. Li voglio vedere affrontati entrambi. Sono stufo di vedere imprenditori additati come delinquenti, per Dio. Adesso invece un'opinione più, diciamo così, favorevole, in linea con quello che è avvenuto. Tra l'altro, tra le reazioni istituzionali di oggi, interessanti quelle di, per esempio, dei commercialisti italiani, perché dicono sono più utili blitz, l'avete sentito anche nel giornale radio, come quelli di Cortina, che controlli fatti su base statistica e presuntivi controlli di massa. Quindi i commercialisti italiani promuovono il blitz di Cortina, anche se invece Confcommercio e Confturismo sono contrari. Flavia Perina, ex direttore del Secolo d'Italia, parlamentare di Futuro e Libertà. Fino all'altro ieri ho visto tante dichiarazioni di esponenti politici, prevalentemente devo dire in questo caso dell'area di centrodestra, il PDL, a dire come la Guardia di Finanza a Cortina, il problema dell'evasione è ben altro, così si ferma lo sviluppo, se vengono fatti i controlli fiscali in queste località l'anno prossimo i ricchi andranno a St. Moritz. Dopodiché oggi su tutti i giornali vediamo i risultati di quel blitz, che sono scioccanti, non sono scioccanti solo per l'evasione fiscale, ma queste persone sì, col Ferrari e 50.000 euro di reddito così, sono quelli che sono passati avanti nella coda per l'asilo nido al cameraman che sta riprendendoci. 800 24 0024 per intervenire in diretta tra poco, dopo il traffico. La Zanzara. Festa, ma che bella questa festa, ma che bella questa festa, questa festa senza te. La festa di Monti a Palazzo Chigi il 31 dicembre. Salutiamo il senatore della Lega Nord, Pier Giorgio Stiffoni. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Buonasera. Abbiamo letto ampi stralci della risposta di Monti a Calderoli, questa richiesta di dimissioni per questa presunta cena a spese dello Stato, una risposta lunga e dettagliata nella quale Monti dice: abbiamo speso tutto di tasca nostra, eravamo 10 e non abbiamo praticamente gravato in nessun modo sulle tasche dei contribuenti. Siete soddisfatti di questa risposta o no, Stifoni? Guardi, l'appartamento di servizio, mi sembra che non deve essere utilizzato per fare feste, via discorrendo, e altre cose. Io penso che aver utilizzato fuori orario di servizio, penso, a meno che non lavori 24 ore su 24, il Palazzo Ghigi, insomma, non mi sembra propriamente una cosa da fare. Mi sembra che il suo predecessore, sì, faceva le sue feste, ma faceva le sue feste su dei palazzi di proprietà. Pertanto è là, nessuno poteva dirgli niente. Schifani, che so, il presidente del Senato, facesse una festa a Palazzo Giustiniani con tutti i suoi parenti. Lui va alle Maldive piuttosto, preferisce fare questo. Ma lei esclude che Silvio Berlusconi non abbia trascorso nessuna festività negli uffici di Palazzo Chigi nei lunghi anni di governo? Io non sono mai stato berlusconiano, come lei può ben capire, ma andava in posti ben più ameni il precedente del Consiglio. Però lei dice a spese sue. Questo senz'altro. Ma questa, cioè, ammettiamo pure che avere tenuto aperto Palazzo Chigi, che poi non credo che non credo si fuori, però non credo che sì. Mi piace. Sì, no, ma infatti questa è la vostra opinione. Però la domanda che io le faccio è questa. Ammettiamo pure che avere tenuto Palazzo Chigi aperto, ammesso che potesse chiudere Palazzo Chigi completamente per un giorno, l'ultimo cosa che non credo. L'ultimo dell'anno sono chiusi i palazzi, ci sono soltanto le guardie. Sì, esatto. Ammettiamo pure che questa cosa abbia gravato per qualche cifra sui conti pubblici. Questo vale la richiesta di dimissioni che ha fatto Calderoli? Cioè, poi parliamo di un Presidente del Consiglio che ha rinunciato al proprio stipendio quando per esempio Calderoli, guardiamo indietro, ma io vorrei vedere nel passato quale Presidente del Consiglio ha fatto una festa di fine anno a Palazzo Ghigi. Vabbè, una festa, Stifoni, era una cena, non era una festa. Io non lo so se Schifani non ha mai fatto una cena con la famiglia al Senato. Io penso che l'abbia fatta anche Schifani. Però la domanda è questa. Non l'ha fatta nessuno in precedenza. Va bene, non l'ha mai fatta nessuno. L'ha fatta solo Monti. Ma cosa dice? L'ha fatta solo Monti. La domanda che le faccio è questa. Da parte dell'ex ministro Calderoli al presidente del Consiglio Monti, che ha rinunciato per esempio al suo stipendio, ricordiamolo, di ministro e di presidente del Consiglio. Ma in realtà i suoi ministri non hanno rinunciato a niente. Ma neanche Calderoli ha mai rinunciato a niente. Come fa a chiedere le dimissioni di Monti per questa cena, Stifoni? Non è una cosa seria, dai. Per noi è una cosa grave, non una cosa seria, per noi è una cosa grave. Ma non seria però. Ma non è una cosa seria. Cioè, ripeto, la domanda è questa. No, non è una cosa Calderoli seria, ha fatto il ministro e il senatore, prendendo il doppio stipendio, no? Monti ha rinunciato. Ma che discorsi sono? Ma che discorsi mi sta facendo? Ma vuole difendere l'indifendibile? Mi meraviglio di voi, mi meraviglio di lei. Ma perché si meraviglia? L'indifendibile. Ma perché si meraviglia? Cioè, mi spieghi perché... Il fatto che Monti se la richiesta di dimissioni non è esagerata. Non è eccessivo. Dopo la risposta di Monti. Per giustificare le festicciole che fa Palazzo Chigi l'ultimo dell'anno, quando dovrebbero essere i palazzi chiusi, ma per piacere. Allora, le rifaccio la domanda. Dopo la risposta di Monti, che ha risposto sul fatto che ha pagato tutto di tasca sua, la richiesta fatta di Calderoli di dimissioni è eccessiva o rimane? Rimane. Punto. Basta. Rimane. Perché rimane? Perché di sì. Perché non è decoroso usare Palazzo Chigi. Quindi per una questione di decoro, non per una questione economica, per una questione di decoro. Sia privata, ma non, il discorso economico è relativo, è il fatto che di per se stesso. È giusto che si capisca, perché la richiesta era arrivata per questioni economiche, perché Calderoli ha detto chiaramente non si può in questo momento gravare sul conto pubblico. Ci mettiamo dentro anche il fatto economico, se lei desidera. Ma però sa perché Stifoni, io dico che non è una cosa seria? Perché è stata una ciofeca. Sì. Sa perché io dico che non è una cosa seria? Perché si può dire di tutto a Monti, al governo Monti, governo dei tecnici, delle banche, però non che non abbia uno stile sobrio. L'abbiamo visto tutti andare in giro in treno, col trolley, stare in albergo. Mi pare un'accusa che non aggrappi, che non faccia presa Stifoni. Guardi, io mi commuovo di fronte a queste sue parole. Cosa vuol dire si commuove? No, mi commuovo di fronte a queste parole. Perché si commuove? Sta talmente incensando Monti che mi sto commuovendo. No, io sto dicendo che si può criticare su tutto, mi pare che l'unica cosa su cui non si possa criticare è su questo. Uno che rinuncia allo stipendio, che va in giro col trolley e si muove col treno da Milano ma a Roma... Ma che fa la festa di fine anno a Palazzo Chigi? Vabbè, una festa, era una cena con la famiglia. Era una cena con la famiglia. Cioè lei pensa che Fini e Schifani non abbiano mai fatto una cena con la moglie dentro Palazzo Madama? Guardi, io non ho notizia di questo. Non ha notizia. Se lei ce l'ha notizia, denunci. No, come ha fatto Calderoni. Ma io non penso che sia una cosa da denunciare, questo siete voi che avete denunciato. No, noi altri denunciamo invece. Sì. Allora, denuncia che lei se sa qualcosa del passato. Quindi c'è una denuncia dove? Alla Corte dei Conti? Ma che Corte dei Conti? Abbiamo fatto un'interrogazione per sapere se è vero e dopodiché andremo avanti, o meglio, andrà avanti Calderoli. Ecco, andrà avanti Calderoli. La sua proposta questa. Vabbè, Stifoni, non lo so. Che devo dirle? È lei che deve rispondere alle domande, non è? Io le faccio solo. Io non devo rispondere niente, cosa vuole che le risponda? Sì. Non ero mica alla fisticciola di Monti, io non posso sapere cosa ha fatto. Non è in discussione cosa ha fatto, è in discussione... Sono state impegnate, tra tutti i componenti di Palazzo, perché bisogna considerare anche quello. Però dice Monti che ha cucinato la moglie personalmente. Sì. Tutti quanti sono a casa propria a fare le festicciole, non obbligano i dipendenti di Palazzo Chigi a fare loro la guardia, mi scusi se vabbè insomma lei la può pensare come vuole, io la penso esattamente come è, certo, quello che conta è quello che pensa lei, non quello che io faccio solo le domande. L'altra cosa su cui vi volevo la Lega si è arrabbiata un po' anche per questa questione della tassa che il governo intenderebbe togliere sul permesso di soggiorno da 80 a 200 euro. Avete notizie che tutti quanti si scandalizzano per questa tassa che è stata messa da 80 a 200 euro. Sa quant'è in Francia? Lo sa lei quant'è in Francia? No. 1600 euro. Che cosa sono in Francia? Di delinquenti allora? Da mettere al muro? È 1600 euro il rinnovo del permesso di soggiorno. Mi sembra che al massimo 200 euro non sia un'esagerazione. È il minimo di rimborso per tutti gli atti amministrativi che vengono fatti di conseguenza a una richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno. Tutto là. E non vedo niente di scandaloso. E quelli che dicono invece che ripeto, è un aggravio. È di 1600 euro. Se non mi crede, si informi. Io non ho mica detto che non le credo, Stifoni. Non si arrabbi, non sia arrabbiato solo perché non sono d'accordo con lei su Monti. No, le faccio la domanda perché è un argomento di attualità politica. Stifoni, se vuole la finiamo qua l'intervista. Se è arrabbiato e se ne vuole andare, è una cosa di attualità politica. Siete voi che la mettete in un tono come per dire: ma come mai fate pagare? Ma nelle altre parti d'Europa che cosa fanno? Stifoni, era una domanda, non era una insinuazione, era una domanda. In Francia pagano 1600 euro se vogliono. Vabbè. E se no le pagano lo stesso. Ma così è la vita. Pensate che il governo andrà avanti su questa cosa di togliere la tassa oppure avete notizia che invece manterranno quella che era la tassa che avevate messo voi? Questa è una legge dello Stato, bisogna fare un'altra legge dello Stato per eliminare quella tassa là e noi altri faremo le barricate. E per esempio pensa che il PDL, visto che adesso non siete più alleati... Il PDL dalle notizie che ho è assolutamente in linea con voi. Quindi non sarà facile in Parlamento far passare questa cosa. Perfetto. Un'altra cosa che le volevo chiedere, che anche questa sono è di attualità. Qua. Sì, però non si arrabbi. Sono al freddo, è per quello che sono un po'. Sono al freddo. Ah, no, allora facciamo veloce, così poi va al caldo. Stifoni, la questione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate a Cortina, che ne pensate di questo? Mi hanno fatto tanto ridere. Anche perché mi immaginavo questi poveri finanzieri accampati in una tendina sotto il Faloria per poter risparmiare un pochino di soldi. Ma questi qua hanno anche soggiornato a Cortina, evidentemente, o hanno dormito dove? Sotto una tendina. Quindi lo spreco anche lì, c'è stato lo spreco. E poi, mi scusi, non è assolutamente questo il modo per risolvere il problema dell'evasione. Noi l'abbiamo detto un'infinità di volte e siamo anche stanchi di dirlo. Bisogna cambiare il funzionamento della legge fiscale in Italia. Bisogna copiare da quello che è già stato fatto a questo mondo, perché non si inventa niente a questo mondo, è già stato tutto fatto. Negli Stati Uniti, però se non l'avete cambiato voi che eravate al governo, chi lo doveva fare questa cosa qua? Aspetti, no, abbia un momento di pazienza. Negli Stati Uniti sono più di 100 anni che funziona quella legge fiscale e funziona benissimo perché c'è il controllo incrociato, c'è la detraibilità di tutto quanto e pertanto nessuno ci può scappare, neanche Al Capone ci è scappato, l'hanno messo in galera per quello, non perché non l'avete proposto e approvato quando eravate al governo? Noi altri l'abbiamo sempre proposto, l'abbiamo sempre portato avanti, ma il PDL era contrario. Che ci sono delle lobby in Italia, sì, che sono molto forti e premono perché questo non venga fatto. Anche nella vostra maggioranza di centrodestra erano molto forti. Ma certamente, ma non certamente la Lega è tutta d'accordo da questo punto di vista qua. Ma da altre parti, mi scusi, ma noi altri siamo tuttora in Parlamento con l'8,1%. Pertanto abbiamo il peso che possiamo avere, noi altri possiamo proporre le cose, sì, cercare di convincere gli altri, ma se dopo ci sono delle pressioni esterne al Parlamento che porta in direzioni diverse, dobbiamo rassegnarci a vedere questi poveri finanzieri sotto la neve e a Cortina che vanno a pizzicare qualcuno, ma ripeto, non è così che si risolve l'evasione fiscale in Italia. Però io mi faccio questa domanda, caldo, sì, come dite voi. Va bene, può darsi che sia un pannicello caldo, però io faccio questa domanda. Bossi negli ultimi tempi si era presa abbastanza con Equitalia, aveva chiesto a Tremonti di fare degli interventi, qualcosa era anche stato fatto. Però mi faccia finire, vabbè che è al freddo, però. Sono al freddo, ci sono finisco la domanda gradi, in tre secondi. Se possiamo essere d'accordo che Equitalia fa delle esagerazioni, prende di mira spesso piccoli contribuenti, eccetera, si dice di colpire il grande contribuente, poi il fisco va a Cortina, dove sicuramente non ci sono i figli degli operai, e dite no, anche questo. Io per questo non capisco. No, ma che vadano pure, ma certamente, invece che mandare 80 finanzieri, che ne mandino 800 finanzieri. Sì, ma alla conquista di Cortina. Ripeto, non si risolve così il problema, gliel'ho spiegato un momento fa in tre parole come si risolve il problema. Vogliono mandare, che continui a mandarlo, ma se vogliono veramente mi può lasciare un secondo soltanto a dirle in che direzione dovrebbero andare. Allora aspetti un attimo perché io devo fare le informazioni dai mercati finanziari doverose. Allora Stifoni, altri due minuti di freddo a questo punto e così completiamo, ci resta con noi altri due minuti, sì? Sì, va bene. Di nuovo in diretta in compagnia del senatore della Lega Pier Giorgio Stifoni, che stava parlando della lotta all'evasione fiscale al freddo. Lei non è che per caso è a Cortina, no? Ma sono qui. Io da 43 anni vado ad Asiago, perché da 43 anni, in epoca non sospetta, abbiamo comprato una casa ad Asiago. Sì. Pertanto sono a posto da questo punto di vista. Comunque ho appena sentito le notizie finanziarie, sì, le avete appena mandate. Non sono brillanti, tutto, sì. Se non scoppia tutto fra poco siamo fortunati. Vabbè, volevo dire a proposito di Equitalia, sì, evasione fiscale, non ho mai sentito che gli ispettori, tanto diligenti nel fare le gite a Cortina, vadano dentro le assicurazioni, dentro le banche, per vedere se è tutto in regola da un punto di vista fiscale. Sa perché le dico questo? Perché non mi risulta che ci vada mai. No, ma dentro le banche è possibile che ci sia. Mi scusi, proprio in banca. Sì. La Banca d'Italia fare delle ispezioni, ma sono delle ispezioni di routine per vedere se la gestione viene fatta in maniera corretta secondo le circolari. Ma non ho mai sentito la Guardia di Finanza che entra in una banca. Chissà perché. Ma non lo so, io però le banche, perché stifoni proprio le banche? Sono controllate dalla Consob, sono già quasi tutte quotate in borsa le grosse banche italiane. Guardi, e perché fanno. Cioè che le banche facciano il nero? Perché vanno sempre nelle altre società quotate in borsa a fare i controlli? Quest'anno la Lega proprio ce l'ha con le banche, ma da morire. La Mediaset, sì. E ripeto, non sono berlusconiano, ma non vanno mai a controllare le banche e le assicurazioni. Faccia un sollecito al suo amico Mario Monti. No, lo faccio. Guardi, è più vicino lei a Mario Monti di me, perché lei almeno è in Parlamento. Ascolta soltanto se stesso, quello là, e basta. Ascolta solo se stesso, parla solo a se stesso. Ma che mandi gli ispettori là, dentro là. Cioè, lei dice che nelle banche c'è del nero. Sì, caro. Per esempio? Per esempio non le dico niente, io ho lavorato 29 anni e mezzo in banca, le dico solo questo. Ma qualcosa di più, perché così ci lascia nell'angoscia più totale, non ho capito. Che s'arrangino loro andare in cerca. Io non ho capito nulla, perché le banche, Stifoni, ma ci dica qualcosa in più. No. Facciano i controlli anche là, c'è tanto del marcio in Danimarca, anche dentro le banche, perché le banche devono essere immuni secondo lei? No, non devono essere immuni, nessuno deve essere immune. Non credo che siano immuni, io dico questo, sono le grosse banche, sono tutte quotate in borsa, credo che i conti siano passati alla rete di grandi. Non è il patentino, non è nessuno. Ci sono truffe a tutti i livelli, figuriamoci. Stifoni, vuole aggiungere qualcos'altro sull'attualità o ci salutiamo? Guardi, noi possiamo anche salutarci così posso rientrare, perché da dentro non ci prendeva ma niente. Ecco perché da dentro non c'era linea. Allora io la ringrazio due volte perché è stato 20 minuti al freddo per rispondere. A meno 3. Ad Asiago. Quanto dista la Cortina? Beh, è lunghetta per arrivare. No, io sono totalmente ignorante in fatto di montagne, quindi per me Da Treviso arrivo in circa un'ora e un quarto. Sì. Perché poi questa cosa di Cortina, no? Cioè, ora, io dico, è vero, non dobbiamo stigmatizzare, però non è un po'. Perché Cortina non mi piace? Perché c'è un sacco di gente, un casino. C'è soltanto 300 metri di passeggiate e basta, il resto è soltanto. Sembra di essere in centro a Milano, c'è un traffico pazzesco. Una schifezza. Grazie Pier Giorgio Stifoni, buona serata, buon anno a questo punto. Arrivederci e buon anno anche a lei di nuovo. 18:38 minuti, ascoltatori all'800 24 00 24. Guido da Bergamo, e poi naturalmente commentiamo questa questione della cena di Monti e la Lega che va avanti nonostante la risposta del Presidente del Consiglio che abbiamo letto su questa questione qua. Dicevamo, Guido da Bergamo, buonasera. Buonasera. Allora, ci sarebbe un sacco di cose da dire dopo gli interventi di cui si chiama Mazzocca, Mazzocca l'onorevole dell'altra sera. Mazzocchi, il questore della Camera, sì. Ecco, e questo che ha appena parlato. Vabbè, parliamo dell'altra sera. Allora, mi verrebbe da chiedere se ci sei o ci fai dopo quello che ha detto. Io so, mi domando veramente se si crede a quello che dice. Quindi, i costi della politica esistono e penso che siano innegabili. Ancora peggio il fatto che quello che riceviamo in cambio di quello che diamo loro. E non riceviamo niente, riceviamo dei danni. Sarebbe come se chiamassi un idraulico a casa mia, vabbè, mi prende 50 euro all'ora, ma mi fa il lavoro bene, è caro, ma può anche andare bene. Se mi lascio le perdite d'acqua in casa, ammesso anche che me ne prenda 25, sarebbe pur sempre pagato troppo. Ecco, quindi i nostri politici sono l'idraulico a 50 euro che lascia le perdite d'acqua e magari tanto che fa finta di aiutare i tubi mi rovista dei cassetti. Quindi questa è l'impressione che ho della classe politica. E invece sulla questione dello stipendio, che idea si è fatto? Cioè lo stipendio è in media con quelli del resto dei paesi europei, perché sa che ci sono i due cifre, il lordo e il netto, e quindi a seconda di cosa si guarda c'è stata una disputa su questo, no? Guardi, allora il direttore dell'Istat dice che non è sicuro lui, quindi guardi, non sono sicuro nemmeno io. Quindi secondo me ripeto, prendono troppo rispetto a quello che ci danno in cambio. Chiaro, quindi, chiaro, grazie. La posizione di responsabilità, anche quelle le cifre che sono dette dei 16.000-17.000 euro, mi potrebbero di tutto andare bene se sapessero cosa stanno facendo, invece non lo sanno. Va bene, grazie Guido. Mi pare ultimo, io quando prenoto un ristorante non mi presento nemmeno più come onorevole, mi presento come avvocato, perché essere onorevole è sinonimo di ladri. Avrebbe chiedersi come mai. Questa però è un'opinione diffusa. Allora io le faccio sentire, cioè dovremmo avere la voce del ex ministro Rotondi, che dice anche lui è colpa della stampa che fa una campagna denigratoria contro noi politici e quindi poi la nostra immagine si va deteriorando, ma la colpa, dice Rotondi, è dei giornalisti. Intanto io contesto l'espressione casta, perché è un'espressione fortunata di un bel libro che ha reso prestigio a due giornalisti di grande valore, ma è una provocazione giornalistica. La casta riguarda altri regimi, altre storie di altri popoli. In Italia non ci sono caste. Se ogni giorno i giornali fanno a pezzi i parlamentari, presentandoli come degli accattoni, dei mangiapani a tradimento, degli gente che si prende il pollo alla buvette gratis, e via digioneggiando su queste cose, io penso che il danno ormai è fatto, cioè per la gente siamo questo. Non è possibile, dice, domani tagliamo. Mi ricorda la famosa barzelletta di Berlusconi col figlio che dice: butta una moneta che ti applaudono, buttane due, 100.000, e l'ultimo nipotino che dice: buttati tu che applaudono tutti. Ecco, abbiamo voglia di tagliare, l'ultima richiesta sarà la testa. Così Gianfranco Rotondi lo dedichiamo all'ascoltatore Guido che chiama da Bergamo. Andiamo a Torino, da dove ci chiama Alessandro. Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. E complimenti per la trasmissione. Grazie. Intanto premetto che da ieri sera mi sento confortato, no? Avendo saputo proprio da voi che esiste un assessore al condono nel comune di Ischia, e questo mi dà... È un po' inquietante, anche se lui ha detto che l'assessorato c'era già da prima, lui ha solo ereditato le deleghe. Infatti sono rimasto proprio estasiato da questa notizia, no? E quindi mi spiego perché forse l'Italia non va tanto bene. E mi sono preparato una scalettina, ma rapidamente, volevo intervenire sul blitz di Cortina. Credo che Cortina sia stato certamente voluto per dare un po' di enfasi a questa lotta all'evasione fiscale. Devo dire peraltro che sicuramente, avendo vissuto anche la realtà di Cortina, ma non perché sia un cortinese, ma perché ci ho lavorato con la divisa, probabilmente sono intervenuti dei finanzieri della compagnia di Cortina stessa, suppongo. Del Veneto, quindi, credo che fossero del Veneto, sì. Sì, erano del Veneto, comunque di Belluno. In ogni caso, quindi cioè lei si riferisce alla questione di Stiffoni, che ha detto che alloggiavano lì, quindi a spese dello Stato, eccetera. Ma direi però, tra l'altro, no. Infatti quello che forse stava dicendo lei indirettamente. Tra l'altro io adesso ci ripenso, ma è chiaro che se uno deve fare il suo lavoro e va in trasferta, che fa? Rinunciamo a fare i controlli per non pagare le trasferte. Questo è personale stanziato, secondo me, nella provincia di Belluno. Sì. Ma ciò che però mi dà così da pensare è il fatto che abbiamo degli strumenti tecnologici, e lo sappiamo tutti, per cui se io vado a scorrere rapidamente le targhe delle autovetture, delle supercar, mi trovo direttamente in ufficio con due ottimi marescialli, magari anziani con esperienza, e in qualche ora mi estraggo tutti i redditi delle persone che hanno le automobili intestate. Detto questo, volevo anche fare un piccolo accenno a Equitalia. L'Equitalia adesso è sotto l'occhio del ciclone. Volevo soltanto rappresentare il fatto che spesso non si riesce a distinguere l'evasore da chi invece non riesce ma realmente a pagare le tasse. E mi riferisco in modo particolare in questi anni ai piccoli imprenditori che spendono ore e ore della loro vita, del loro lavoro nelle loro botteghe, e non riescono però a far fronte poi a quelli che sono gli adempimenti assolutamente logici e ovvi di tasse, di pagamenti di IVA, di pagamenti di contributi. Guardi che questa è una realtà presente, molti non ne parlano, e mi è piaciuto molto che non si sia più parlato di questi suicidi, ne sono capitati 4 dall'inizio dell'anno. Tutti Di suicidi ci sono diversi articoli che ne parlano, ce ne sono sempre stati, purtroppo, io ricordo già anche il vicepresidente di Confindustria Bombassei nel 2010 parlava di questo fenomeno, e c'è stato un aumento da quando la crisi, quella grossa, dal 2008 in poi, è arrivata anche da noi e quindi forse se ne parla troppo poco. Però riprendendo il suo discorso su questi imprenditori che non riescono a pagare le tasse, io non credo però che possano essere accostati a quelli che invece vanno in giro con la Ferrari a Cortina, perché se uno ha dei problemi a far fronte alle spese, non credo che possa poi andare in giro tanto allegramente con delle auto di lusso. Dovrebbero essere due situazioni diverse, insomma, questo almeno è come la vedo io. Di nuovo in diretta con i vostri interventi. Allora andiamo a Cesare che ci chiama da Milano all'824 0024. Buonasera Cesare. Buonasera, io volevo fare un intervento in merito all'esternazione di Calderoli sulla festa di Capodanno di Monti. Visto che domani è l'Epifania, io probabilmente mi trovo in zona Monza, volevo chiedere, ma purtroppo non è tardi, all'onorevole Sifoni se conosceva un posto, un paio di stanze governative che sono al momento non utilizzate, che potrebbero andare bene per cioè lei si riferisce ai ministeri del nord? No, forse. Non lo so, a me avevano detto che c'erano delle stanze che erano indispensabili, però mi sembra che non vengano molto utilizzate, quindi se lui potesse intercedere, magari io e alcuni amici, pagando di tasca nostra, potremmo fare una festicciola, senza gravare sui conti dello Stato. Dici tanto, già che lo spazio c'è, è inutilizzato. Mi sembra che anche i mobili siano stati fatti arrivare dalla Sicilia, no? Se non, adesso non ricordo, ma insomma... credo che Stifoni le direbbe che è dispiaciuto perché gliel'hanno impedito, visto che quell'operazione è stata bloccata. Sarebbe stato forse interessante farla andare avanti per vedere che cosa sarebbe successo, perché insomma una festa avevano provato a farla gli imprenditori del Veneto, però non gli avevano aperto, quindi cioè? Che vogliono proprio risparmiare, sì, che si erano presentati, se non sbaglio, dopo un mese dell'apertura, sì, dei ministeri del Per fare il punto sul esatto, e avevano trovato il guardiano che innaffiava le aiuole, se non sbaglio. Quindi a questo punto, visto che le stanze ci sono, le paghiamo, utilizziamole in qualche modo profittevole, ecco, questo era soltanto. Ah, poi una considerazione, visto che stiamo in questi giorni, sto sentendo, si stanno vagliando tutte gli orrori dello Stato che sperpera, eccetera, eccetera. Ho letto una notizia sul Corriere, mi sembra, qualche giorno fa, sì, relativamente al fatto che il Comune di Roma ha 62.000 dipendenti. La mia domanda è: cosa fanno 62.000 dipendenti al Comune di Roma? Una mega festa. Ah, ecco, grazie, buonasera. Grazie a lei, Cesare. Adesso sentiamo i titoli del TG2, sì, ce l'abbiamo, sentiamoli. Giù Milano, maglia nera, perde il 3,65, spread sopra i 500 punti, Monti a sorpresa, vola a Bruxelles, Napolitano dimostrerà che l'Italia è affidabile. Padre e bimba cinesi uccisi a Roma in una rapina, caccia e killer avrebbero mirato alla piccola, l'ambasciata cinese, l'Italia prenda gli assassini. Prima giornata di saldi nelle grandi città, una falsa partenza, folla ma negozi semivuoti, pienone solo nei magazzini low cost e nei centri outlet. Allarme germi per la tastiera del computer, dagli Stati Uniti arriva quella che si disinfetta da sola, uccidendo la maggior parte dei microbi. Allora, adesso abbiamo in linea Luca che ci chiama da Bologna, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire riguardo la notizia della cena di Monti dell'ultimo dell'anno. Sì? Io, ascoltando la notizia così su Radio 24, che stimo tantissimo, cerco di ascoltarla in ogni momento che ho libero perché la ritengo molto interessante, che dà degli spunti di riflessione molto, molto interessanti. Grazie Luca, grazie mille. Sì. Però ascoltare una notizia, una polemica su il Presidente del Consiglio che fa una cena l'ultimo dell'anno, mi lascia tanto l'amaro in bocca, perché sa tanto delle notizie come le veline, le notizie che si polemizzano in Italia ma che non danno nessun contributo, non danno nessun valore aggiunto. Cioè, allora intendiamoci, lei è rimasto deluso per il fatto che noi adesso qua ne stiamo parlando, o per il fatto che c'è stata un'iniziativa, perché Calderoli ha fatto un'interrogazione chiedendo addirittura le dimissioni di Monti? Calderoli è un ex ministro e un senatore, non è che si possa poi sottovalutare, cioè è un'iniziativa politica. Sì, tutto, non tutto è gossip. Poi, che si fa girare attorno, sì, a queste notizie che hanno tanto scalpore, ma che sostanza, di cosa stiamo parlando? Che che tempo stiamo sprecando. Per me nessuna sostanza, io a Stifoni gliel'ho detto, però cioè, questo è il mio punto di vista, ognuno ha il suo, e Calderoli e la Lega ne hanno un altro, però questo bisogna anche prenderne atto. Ma non bisogna neanche dare arito o risalto a cose così, perché queste persone usano questi strumenti proprio per usare poi la stampa, i giornali, le radio, per dar risalto a polemiche inutili e insensate, non fondate. Notizie così, attività come queste, iniziative come queste dei politici verranno sempre utilizzate perché hanno risalto poi nella stampa, perché poi gli italiani le ascoltano. E però il fatto che abbiano risalto, Luca, che cosa vuol dire? Cioè, se un'iniziativa è, mettiamo che io la definisca una stupidaggine, no? Questa cosa qua della Lega, e noi ne diamo risalto, facciamo un, diciamo, aiutiamo in questo caso, come dice lei, la Lega nelle sua campagna propagandistica, oppure invece no? Perché è una stupidaggine, mettiamo in luce una stupidaggine. Secondo me l'aiutate, non bisogna proprio dare risalto, bisogna parlare di altre cose, parlare di lavoro, di contratti di lavoro, di flessibilità. Guardi, più avanti facciamo l'intervista sul lavoro. Grazie, io, Luca. Posso fare giusto un altro intervento? Io adesso, mentre ero qua in linea, ho ascoltato i titoli del TG2, del TG1. TG2. Qual era la terza o quarta notizia? Ce lo dica lei? Ascoltati lei? I germi della tastiera del computer. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, la terza o quarta notizia di un telegiornale italiano sono i germi della tastiera. Spero che la terza notizia di TG di GR24 fosse diversa, ma mi pare che fosse Ma purtroppo no, io dico una cosa, ascolti i telegiornali in maniera critica e incominci a ascoltare anche i telegiornali che si ascoltano all'estero. Io tutti i giorni, per motivi familiari, ascolto il telegiornale spagnolo, è un'altra cosa. I telegiornali italiani sono appiattiti, due o tre notizie importanti, poi le polemiche, le veline, il calciatore. Abbiamo dei problemi sul lavoro, abbiamo un contratto di lavoro che è estremamente bloccato a un modello di business che va bene negli anni 70, anni 80. Non si può più utilizzare dei modelli dei contratti di lavoro come questi. Il tempo indeterminato così come è pensato. Io sono un dipendente a tempo indeterminato, sono contentissimo e sono molto fortunato ad averlo. Ma non posso più stare in piedi. Se un giovane che cerca lavoro comincia a pensare, se io dovessi creare lavoro domani, cosa metterei a fare? Non c'è nessuna via d'uscita, ma non per i lavoratori e per gli imprenditori, è quello il problema. Perché non si può più pensare che un imprenditore, con le incertezze che ci sono adesso, al giorno d'oggi, con le grosse incertezze, assume le persone dandogli delle certezze. Come fa un imprenditore ad assumere uno, due, tre dipendenti? E dico, io ti do una garanzia di un contratto a tempo indeterminato. Luca, grazie. Resti in linea con noi se vuole, o comunque ascolti. Adesso sentiamo i titoli di Studio Aperto, facciamo la prova. Vediamo quando cominciano le boiate. Mi perdoneranno i colleghi di Studio Aperto, insomma, sappiamo di quello di cui stiamo parlando, cioè le notizie più leggere, e quando invece ci sono le notizie più hard. Invece, Luca, resti con noi, ascolti, perché più avanti parleremo proprio di lavoro con un ospite di Mercato del Lavoro. Sentiamo adesso però Studio Aperto. Uccisa 9 mesi insieme al papà durante una rapina. Roma ha paura dopo l'assalto ad una famiglia cinese. L'uomo che teneva in braccio la bimba ha provato a reagire, i banditi hanno sparato, ma sono fuggiti senza bottino. La borsa era vuota, ora caccia i killer. 2 milioni di disoccupati, un giovane su 3 senza lavoro, sono i dati certificati dall'Istat. Tonfo dei mercati, Piazza Affari chiude a meno 3,65%, il premier Monti vola con un giorno di anticipo a Bruxelles, prima tappa del suo tour europeo. Napolitano, il debito italiano è affidabile. Finti poveri con auto di lusso, negozianti nullatenenti con ville da sogno, Cortina nella bufera dopo la retata dell'Agenzia delle Entrate contro i furbetti del fisco. Protesta il sindaco, è un blitz stile Hollywood, e il governatore Zaia incalza, ora però controllino anche il sud. Era scomparso da Caserta il 16 dicembre con gli amici, avevano lanciato un appello su Facebook, ma Pietro, 23 anni, era già morto. Lo hanno trovato in un laghetto crivellato di proiettili e incaprettato, giallo sul movente. Il ragazzo incensurato lavorava in un centro per disabili. Con oltre 100 interventi di chirurgia estetica aveva raggiunto il suo sogno, essere identica a una bambola. Ora Sara, la Barbie umana, lancia una nuova provocazione. Ecco, l'esperimento è riuscito. Al quinto titolo, Studio Aperto devia su notizie che il nostro ascoltatore Luca da Bologna avrebbe definito, io sono d'accordo con lui, ma insomma è difficile essere in disaccordo, notizie leggere di gossip, la chirurgia estetica, eccetera. I 4 titoli però principali, i primi erano invece di tutt'altro genere. Vabbè, insomma. 18:55, ancora qualche ascoltatore prima del giornale. Nazionale Radio. Proviamo con Riccardo che ci chiama da Milano. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io faccio una piccola premessa per quell'intervento di quel deputato della Lega, adesso non mi ricordo il nome, cioè, che ha parlato prima. Stifoni. Stifoni, ecco, esatto. Cioè, veramente sembra che questa gente sia vissuta per tutti questi anni in un'altra galassia, perché parlano come se loro fossero stati veramente dall'altra parte del mondo. Cioè, questi si sono fatti prendere in giro per 15 anni da Berlusconi, non hanno ottenuto un tubo, e poi si permettono di perdere tempo perché Monti fa una festa a casa sua perché abita lì, cioè, ma cioè, vabbè, cose assurde, ad ogni modo era una premessa così. Mm. Io volevo invece dire qualcosa in merito al fisco, perché dopo sta faccenda qua di Cortina, eccetera. Io sono convinto che le aliquote del fisco in Italia sono esagerate e che buona parte degli evasori prende questo dato come una specie di alibi per non pagare le tasse, e secondo me bisogna cambiare completamente il sistema, cioè bisogna che le aliquote siano più ridotte, che bisogna fare una riforma degli accertamenti che non devono durare decenni, e soprattutto secondo me occorre fare un bel condono tombale, nel senso che per tutto il pregresso chi vuole mettersi in regola lo possa fare senza pagare sanzioni, pagando il dovuto naturalmente, ma senza pagare sanzioni e cose di questo genere, e aprire una nuova pagina, perché l'evasione fiscale è il principale problema di questo paese. Grazie. C'è la dichiarazione sui giornali di oggi del garante dei dati personali, Pizzetti, che dice bisogna rinunciare alla privacy, è giusto quello che fa l'Agenzia delle Entrate, entrare nella vita di ognuno di noi, perché l'emergenza che dobbiamo fronteggiare, dice, è come quella del terrorismo negli anni 70 o della criminalità organizzata. La zanzara. 19 e 15 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24 fino alle 20:30 con i vostri interventi che riprenderemo a sentire tra pochissimo. Prima ancora qualche spunto per la serata, Sky TG24, titoli. Borse a picco trascinate dai bancari, lo spread chiude sopra quota 520. Missione a Bruxelles per Monti, Napolitano invita alla fiducia, Italia affidabile. Allarme anche per i dati sulla disoccupazione, aumenta ancora quella dei giovani. Padre e figlia uccisi per rapina a Roma, inquirenti certi, banditi non professionisti. Vertice in prefettura per l'emergenza, intanto esplode anche la polemica politica. Due delitti anche in campagna, il cadavere di un 23enne trovato in fondo ad un lago. Cortina non ci sta, i commercianti accusano solo uno show, il blitz anti-evasione. Senza americani l'Iraq resta una polveriera, raffica di bombe fa strage di sciiti. Pochi soldi ma tanta voglia di saldi lo stesso, è iniziata la caccia all'affare. X Factor è il giorno della finalissima, questa sera alle 21, diretta su Sky 1 in 3D. Così Sky TG24 e adesso TG3. No. Cioè... Caccia ai rapinatori che hanno ucciso a Roma un commerciante cinese e la figlia di 9 mesi, alle mani fermare le belve, l'ex sindaco Veltroni al TG3. Spread sopra 520 punti, giù le borse, crolla Piazza Affari, nuovo tonfo di Unicredit, la Consob, aggiornamenti sull'andamento del titolo. Monti a sorpresa vola a Bruxelles, domani a Parigi la prima tappa del tour delle capitali europee, Napolitano lui sa come parlare all'Europa. I giovani e il dramma della disoccupazione, uno su tre non trova lavoro, le donne le più penalizzate soprattutto al sud, i dati peggiori dal 2004. I costi della politica, il governo, sugli stipendi dei parlamentari decidono le camere, i portaborse al TG3 delusi e mal pagati. Dopo il blitz dell'Agenzia delle Entrate a caccia di grandi evasori, Cortina cerca di difendersi, il sindaco, siamo in uno stato di polizia. L'Ungheria sull'orlo del baratro, a rischio default, l'asta dei titoli di Stato è andata male, tassi dei bond oltre il 10%, tensione nel paese. messa in paradiso. Io gli risposi con un sorriso: è molto meglio, mia piccina. Sono più in su, sono a Cortina. Il blitz a Cortina continua a far discutere. Ditemi che non è vero che il sindaco di Cortina ha detto che siamo in uno stato di polizia per questo controllo di 80 agenti dell'Agenzia delle Entrate. Mi pare veramente esagerato. Comunque, sentiamo qualche voce di piccole interviste che sono state fatte in queste ore a Cortina. Le opinioni prima di un farmacista e poi di gente intervistata per strada. Il farmacista: ma è vero che avete avuto anche voi dei controlli? Sì, il giorno 30, dalla mattina alle 9 fino alle 8, alle 20:30 di sera abbiamo avuto l'ufficio delle entrate. Cosa volevano sapere? Volevano conoscere la posizione delle dei collaboratori della farmacia e se i corrispettivi erano adeguati a quelli del giorno prima, dell'anno prima, degli anni precedenti. Hanno trovato tutto assolutamente allineato ai giorni prima, agli anni precedenti. Voi sareste tra i pochi che gli scontrini gli battono? Sì, ma guarda, in un momento in cui le farmacie sono al centro dell'attenzione nazionale, per quanto riguarda la realtà della farmacia, assolutamente sì. No, non sono un evasore. Non ammette, non confessa? Qualcosellina. Dichiaro quasi tutto. Dichiara quasi tutto? Sì, dai. Qualcuno faceva il furbetto davvero? Ma quello lo fanno dappertutto, non è solo a Cortina, no? Queste cose qui sono cose normali, le fanno dappertutto. Mi compra invece come paga? In contanti? Carta, sì, no, questo non esiste il problema. No. Contanti no? Contanti no. Raramente? No, ormai è una prassi come all'estero, pagano tutti. Se non paga 100 euro, pagano con la carta, quindi nel nostro campo io credo che l'evasione non vedo dove possa venire. Senta, ma gli scontrini quando andate a comprare qualcosa ve lo danno sempre? No, bisogna chiederli, non li danno sempre qui. Ah? Non li danno sempre, no. Lei conferma un po'? Di genere sono a casa qui. Cioè, si fa fatica a ottenere la ricevuta? Si fa fatica. Opinioni da Cortina, difatti non ce ne sono moltissimi, se non che questo blitz dell'Agenzia delle Entrate ha prodotto, lo sapete, cioè su tutti i giornali hanno trovato alcune centinaia di auto di lusso intestate o a società con bilanci non sempre positivi o a persone fisiche che però dichiarano redditi, diciamo, irrisori rispetto al valore di queste automobili. E poi ci sarà tutto un lavoro che farà l'Agenzia delle Entrate incrociando i dati. E poi c'è il boom di attività, no? Il boom delle attività commerciali a Cortina. In alcuni settori, tipo i ristoranti, sono cresciuti addirittura dal 300% rispetto a prima dei controlli, no? E allora il sospetto, ma la valutazione fondata è che una volta che sono passati i finanzieri, come sempre, volano gli scontrini che prima invece non esistevano. Ma io vorrei salutare l'assessore al commercio di Cortina, Luca Alfonsi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, naturalmente voi avete già espresso un po' delle vostre perplessità, perché l'intralcio con l'attività economica, non dobbiamo stigmatizzare Cortina. Poi il sindaco oggi ha detto questa frase, me la conferma che siamo in uno stato di polizia per questo blitz? Guardi, non ho sentito dirlo. Perché sarebbe un po' forte, insomma. Ora io, insomma, mi dica lei, ecco, per esempio, visti i risultati di questa azione di controllo, che qualcosina c'è, ne valeva la pena oppure secondo voi invece tempo perso? Guardi, i controlli ci devono essere e l'attività dell'Agenzia delle Entrate non si può pretendere che sia un'attività simpatica. Le dico però questo, che le cifre che sono finite sui giornali sono cifre che non sono vere, e noi abbiamo chiesto ufficialmente questa mattina all'Agenzia delle Entrate che ci fornisca i dati reali degli accertamenti fatti, perché il moltiplicarsi degli scontrini magico non è semplicemente esistito, è un dato falso, perché si riferisce a un'attività o due su 50 controllate. La stragrande maggioranza dei commercianti, io li ho contattati e li ho incontrati, purtroppo complice la scarsa neve, complice la crisi economica, sono stanno fatturando meno 20%, meno 30%, in alcuni casi sì. meno 35%. Allora facciamo ordine. Esattamente sì. l'opposto. L'Agenzia delle Entrate ha volutamente omesso questi dati citando l'unico caso di più 300%. Allora aspetti un attimo 100%. Alfonsi, facciamo un po' d'ordine. Lei dice che l'Agenzia delle Entrate ha preso il dato di un esercizio e su questo ha generalizzato per tutti? Sì, esattamente. Noi attendiamo di sapere i dati veri, perché io le garantisco che sono entrato nei negozi e io le garantisco che questi negozi sono in regola per la stragrandissima maggioranza. Sì, però mi scusi, assessore, stanno facturando meno, ha capito? Però, meno. Ecco. Si renderà conto però che tra il suo sondaggio telefonico e le cifre dell'Agenzia delle Entrate tenderei a credere di più a quello. Allora lei sbaglia, perché io le dico che non ho fatto un sondaggio telefonico, io sì. ho girato, è entrato nei negozi e sono tutti a meno 20%, meno 30%, purtroppo, stanno vendendo meno, e se non arriva la neve, io le dico che a Pasqua siamo a meno 40%, ho parlato con i commercialisti che seguono la posizione di questi commercianti. Sì, però allora forse c'è una confusione, perché credo che quel più 300% di cui parla l'Agenzia delle Entrate si riferisce da un giorno all'altro, prima e dopo il blitz, non ma da una stagione là. No, non è un dato medio, attenzione, perché altrimenti è facile fare i titoli sui giornali. Sì. È riferito a un esercizio, che poi 300% potrebbe dire che uno ha venduto un libro, poi ha dichiarato tre libri, ma io le garantisco che non è un dato medio, è una attività che probabilmente io non so nemmeno quale sia, ma le garantisco che purtroppo si risolverà in una bolla mediatica, perché è tutto e gran parte è in regola e gli esercizi stanno fatturando meno, ahimè. Va bene, questo sul fronte, diciamo, più vostro, casalingo, cioè di quello che fatturano le ricevute fatte dagli esercizi. Per quanto riguarda il controllo in generale, quindi anche i clienti che sono a Cortina in questi giorni, c'è oggi una nota dei commercialisti italiani che dicono invece no, il controllo fatto così funziona meglio così che cose a pioggia fatte su previsioni statistiche. Cioè i commercialisti promuovono un blitz, non smettiamo di chiamarlo blitz, un controllo sul territorio fatto in questa maniera. Guardi, io i commercialisti non discuto, io in casa d'altri non dico niente, dico semplicemente che è stata una spettacolarizzazione dell'Agenzia delle Entrate, che poteva tranquillamente evitare una cosa, perché incrociando i dati delle targhe delle automobili e quelli delle società, in 5 minuti l'Agenzia delle Entrate sa chi sono intestate. Non occorre fermare 30 macchine per strada, che sono lo 0,1% delle vetture che ci sono in giro a Cortina in questi giorni qua, e avrebbero avuto i dati di cui hanno bisogno, guardando il PRA, che è un carrozzone tra l'altro duplicato dell'ACI, che funziona comunque, e bastava, era sufficientemente quello. E l'equivalente Cortina uguale evasione, noi la rispediamo al mittente. No, ma questo avete anche ragione, è ovvio che, non, cioè, almeno dal mio punto di vista, non credo che ci sia un'equivalenza Cortina uguale evasione. C'è un'opportunità che viene valutata da parte delle agenzie delle entrate di venire a Cortina, perché dato che lì si concentrano sicuramente delle persone che hanno una capacità di spesa, chiamiamoli ricchi, e quindi se si vuole beccare l'evasore ricco, certo non vado alla fila della mensa della Caritas dove ci sarà pure qualche evasore, ma l'evasore ricco. Ma l'evasore ricco che vive a Palermo, perché non lo prendete a Palermo che sta 360 giorni all'anno e lo prendete i 5 giorni che è qua facendolo spacciare per Cortina, città di evasori? È questo che io non capisco, l'impiegamento di perché statisticamente persone... assessore, questo però mi sembra che si possa capire, se c'è una concentrazione di persone in vacanza a Cortina quella settimana, faccio prima che andare a pescare in giro per l'Italia. Io contesto il metodo, dico che è un dispiegamento di forze dell'ordine che non ha precedenti in Italia e attendo di sapere questo i precedenti. Può darsi. Questo può darsi. Ecco, neanche per catturare un boss mafioso in Aspromonte è mai stato usato 80 visto uomini, che usate questi paragoni, e dal vostro punto di vista è legittimo farlo, cioè catturare il boss, lo stato di polizia, eccetera. C'è una dichiarazione. Io non ho detto stato di polizia, l'ha detto il sindaco. No, il sindaco io non l'ho sentito dire. Vabbè, lo dice il titolo del telegiornale. Il sindaco ha rilasciato 50 interviste, ha parlato per ore, voi ci date tre parole. Sì, insomma, però se lo titola Sky TG24 non credo che se lo siano inventato. Comunque sono stato su Sky TG24 5 minuti fa con lui, seduto a fianco di lui. Ma la domanda è un'altra. Visto che voi fate questi confronti, forse proprio di questo si tratta. C'è il garante per i dati personali che dice, ieri ha detto in un dibattito, che forse bisogna fare tutti un passo indietro, rinunciare anche a una quota di privacy, perché, dice lui, Pizzetti, l'emergenza della lotta all'evasione fiscale è come era il terrorismo negli anni 70 o la lotta alla criminalità organizzata. Lei condivide un'affermazione di principio di questo tipo? Questa qua è poesia. Noi siamo in un mercato competitivo. Ascolti bene, noi siamo in un mercato competitivo, siamo in competizione con le altre località turistiche, devono venire i controlli, dobbiamo essere in regola, però rispettiamo gli operatori e gli imprenditori senza generalizzare, dandoci la martellata sui piedi, perché sì, noi dobbiamo, altrimenti la gente va in vacanza da qualche altra parte. Ma questo è venuto meno durante l'operazione dell'Agenzia delle Entrate? Se una pizzeria ha 20 persone che aspettano un tavolo e un tavolo è occupato da due dell'Agenzia delle Entrate che stanno 10 ore... e certamente non fanno un servizio a quell'attività, e capisco che siano dispiaciuti di questo, ma ripeto, non devono essere simpatici, dico semplicemente che noi respingiamo il fatto che siano più 400%, più 300%, le garantisco che non è così, è un dato su 50. E non è così. Vedremo le cifre finali, ci daranno ragione. Beh, certo, questo sarà interessante. Se, come hanno detto oggi dall'Agenzia delle Entrate, confermano che faranno altri controlli a tappeto, come è avvenuto a Cortina, anche in altre località, questo, diciamo, alleggerirebbe un po' il peso che avete dovuto sopportare? Cioè, sarebbe più condivisibile quello che è avvenuto a Cortina alla luce di altri blitz altrove, che ne so, a Portofino o in Costa Smeralda? Ecco, allora io dico, Cortina è uno dei posti più straordinari al mondo, è mondana perché è bella, non è bella perché è mondana, è un fiore all'occhiello del turismo italiano che il mondo ci invidia, dobbiamo preservarla. Io dico che bisogna andare a Cortina. Per quanto riguarda la domanda che mi fa lei, ma io dico che andare però sui giornali dicendo cose non complete, come quello del più 400%, che è un caso su 100, non attutisce il dolore se poi subiscono la stessa gogna mediatica altre località. Che faccio i controlli con energia, io aspetto di vedere se, per esempio, le dico una cifra, io sono stato al mare l'anno scorso, ogni 5 minuti c'era un venditore ambulante che vedeva la merce contraffatta, decine di migliaia di euro al giorno venduti in nero, vendendo merce comprata in nero alla luce del sole. Vediamo se quest'estate l'Agenzia delle Entrate con la stessa energia andrà sulle spiagge italiane, 3.000 km di coste, invece di venire qui anche a fare i suoi controlli. Consapevoli assessore che il nero fatto dai venditori ambulanti non è certo paragonabile a quello che può essere un albergo di lusso a Cortina. Ma guardi che gli alberghi di lusso a Cortina non ci sono. Perché, no, ci sono tre alberghi 5 stelle, sì. E lei mi sta dicendo che cosa sta dicendo? Che fanno nero gli alberghi a 5 stelle? Ma su, dai, non fa. No, non lo so, è lei che ha tirato in ballo gli ambulanti. Io sto dicendo che ci sono. Assessore, è inutile che stiamo qua a litigare. Che sono intoccate. E qui a Cortina le garantisco che le cifre sui titoli dei giornali più 400%. Allora, facciamo una puntualizzazione una volta per tutte. Dalla redazione mi hanno portato il documento dell'Agenzia delle Entrate, e in effetti ha ragione lei. Colpo di scena, ha ragione lei, però non del tutto, perché cosa succede? Che hanno controllato 35 esercizi su 1.000, sì. In questi 35 sarà un campione non rappresentativo, però in questi 35 l'aumento del 300% c'è stato. Quindi, ma dove? In un caso su 35? No, ma lei 35 su 1.000, la media, è questo quello che... ma scusi, ma guardi che noi qui abbiamo 1 milione di turisti l'anno, in questo momento un paese di 5.000 abitanti, di gente che lavora di turismo, siamo 60.000, se lei va a vedere i visitatori dei musei vaticani, anche loro sicuramente troverà degli evasori in mezzo, dove c'è massa di gente che si sposta in Italia e all'estero, c'è l'evasione, non siamo un paese... L'importante è che ci sia e che venga contrastata, su questo sarà certamente, d'accordo. Certamente, come no? Mancherebbe anche altro. Assessore, grazie. Io non volevo discutere con lei, volevo semplicemente sapere se all'indomani di tutto questo cancan mediatico, visti i risultati che imparzialmente ci sono stati, vi eravate fatti un pochino più convinti, in attesa di altri controlli annunciati anche in altre località, per par condicio. Che i dati dell'Agenzia delle Entrate ci stiano dando ragione, vedrai i prossimi giorni che ci divertiremo. E allora ci risentiremo semmai. Grazie, buona serata. Grazie a lei, grazie a voi, buon lavoro. Luca Alfonsi, assessore al commercio del comune di Cortina d'Ampezzo. Un po' di commenti di voi ascoltatori su Facebook all'intervista con l'assessore al commercio di Cortina. Dunque, ma basta andare in qualunque posto d'Italia, scrive Roberto, come si sparge la voce che c'è la finanza, tutti battono gli scontrini e si vuole solo fare la caccia alle streghe. Poi ancora qualche epiteto nei confronti dell'assessore, trasferiamoci tutti a Cortina, ma... Ha ragione l'assessore, bisogna controllare gli ambulanti sulle spiagge, non i miliardari evasori in vacanza a Cortina, puntini, puntini. Siamo alle solite, dice Mario, l'evasione va combattuta ma non a Cortina, non nel mio giardino. Anche qui ironia. Franco, anzi Antonella, Antonello dice 35 su 1000 non è assolutamente un calcolo rappresentativo, anzi il contrario, non è né rappresentativo né il contrario. È poco rappresentativo, è quello che è. Poi ancora al 349-238-6666 sempre su questa questione qua di Cortina c'è un ascoltatore che commenta quello che io ho detto all'assessore sugli ambulanti. Il nero fatto dall'immigrato è meno nero di quello di Cortina, ma piantiamola. Io non ho detto che è meno nero, non si potrebbe neanche pensare una frase del genere, non ha senso. Nero è uguale a nero. Io dico che beccare quello che c'ha la Ferrari a Cortina che guadagna 30.000 euro all'anno lordi sicuramente ti consente a te fisco di pescare di più che andare a beccare l'ambulante che vende le borsette lungo la spiaggia. Di ambulanti ne devi beccare 1000 per fare quello che fai con uno solo. Ecco perché l'Agenzia delle Entrate va lì e questa è matematica. Ma riprendiamo con voi ascoltatori all'800 24 00 24. Chi abbiamo? Goffredo da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io le chiedo scusa, ho sentito parte dell'intervento dell'onorevole Stiffoni. Sì. Non ho più sentito la trasmissione, quindi non so se qualcuno o lei abbia replicato in merito. Io volevo fare una domanda. Mi sembra di ricordare, o nell'attesa ho anche scartabellato, che il Presidente del Consiglio abbia come proprio appannaggio un appartamento privato all'interno di Palazzo Chigi. Sì. Credo che sia così, mi corregga se sbaglio. Sì, è la sua residenza, ecco, privata, sì. Perfetto, quindi diciamo che ognuno può decidere se vivere dentro quell'appartamento o vivere a casa propria. Credo, non lo so, credo che l'onorevole Monti abbia deciso di vivere in quell'appartamento non avendo una propria abitazione a Roma. Allora la domanda volevo fare all'onorevole Stiffoni, perché poi io non sono un seguace di Monti e assolutamente, però credo che quando si fa politica si debba essere assolutamente seri. Allora io a casa mia, visto che quella è la mia casa, posso invitare i miei figli e i miei nipoti a organizzare una cena per 10 persone che cucina mia moglie e siamo andati noi a farci la spesa per conto nostro? Cioè tutto questo can can da che cosa è dovuto? Perché spesso si parla, si dicono tantissime cose, ma poi i dati precisi non vengono mai tirati fuori. Quello che dice lei, sì, quello che dice lei è giusto e potrebbe anche essere dirimente, cioè la residenza privata del Presidente del Consiglio dentro Palazzo Chigi, cioè dentro una struttura pubblica, si sa, il Presidente del Consiglio è tale 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, così come il Capo dello Stato, dice lei. Allora se vive là dentro ci fa quello che gli pare, poi se organizza feste con 100 persone a spese nostre uno si può interrogare, ma sulle spese Monti ha ampiamente mi pare risposto a Calderoli. Vedremo se quello che dice lei è fondato. Allora l'interrogazione di Calderoli probabilmente è priva di qualunque fondamento giuridico. Grazie Goffredo, restiamo a Roma. Luigi, buonasera. Sì, buonasera signor Maurizi. Volevo puntualizzare una cosa, sì. Io riguardo gli stipendi dei parlamentari. Mi ascolta? Sì, la sentiamo tutti forte e chiaro. Grazie, praticamente riguardo i vitalizi, riguardo gli stipendi, riguardo si stanno lamentando perché adesso diciamo stanno toccando questo tasto da parte loro, no? Diciamo che si sono accorti un po' tardi che questi vitalizi, questi stipendi sono abbastanza alti. Allora, qui riguardo la crisi, mi pare che sia proprio un punto diciamo logico abbassare un pochino gli stipendi parlamentari, anche perché noi dipendenti, cittadini italiani, non abbiamo né vitalizi e non abbiamo alcun onere riguardo, a parte oltre lo stipendio, non abbiamo niente. Non c'è nessuno che ci porta a casa, al lavoro, non c'è nessuno che ci accompagna a casa e a tutto quanto quello che noi facciamo dallo stipendio, a parte tutto il resto della famiglia. Vuole sapere il motivo per quale se la stanno prendendo questi politici, per quale motivo? Cioè se si abbassa il vitalizio, se si toglie il vitalizio e si abbassa lo stipendio parlamentare, che è abbastanza alto, anzi molto alto riguardo il cittadino, penso che sia una cosa normale. Vuole che gliene dica una. Mazzocchi qualche giorno fa, qualche sera fa, il questore della Camera, onorevole del PDL, ha detto che il vitalizio, per esempio, è condivisibile, è giustificato dal fatto che fatte una, due legislature, il giovane parlamentare, soprattutto quello che non ha un'esperienza professionale altrove, poi rischia di rimanere, ha detto proprio così, un disadattato, fa la fine del barbone. Glielo ripeto perché è quello che abbiamo sentito noi, non perché io lo condivida, naturalmente. Thomas, buonasera, da dove chiama? Intanto complimenti, meglio grazie. Di Cruciani. De gustibus, diciamo. Thomas, posso permettere. Da dove chiama però, perché non lo vedo scritto? Da Parma, prego. Guardi, niente, era solamente per ritornare sul discorso di Monti e con la diatriba di Calderoli. Io penso che veramente abbiamo storia recente di presidenti del Consiglio che usano voli di Stato per riempirli di non familiari, stretti familiari, ma di amici e amiche, che utilizzano a spese del cerimoniale di Palazzo Chigi per fare feste in Costa Smeralda o altre parti. Quindi invitare i propri stretti familiari per una cena in un appartamento che è comunque, come diceva anche l'ascoltatore precedentemente, appannaggio del Presidente del Consiglio per la sua funzione, non penso che sia questo grande problema che necessiti poi un'interrogazione parlamentare, appunto poi dal pulpito di chi fino a ieri ha largheggiato in spese assolutamente inutili come uffici, fantomatici uffici dei ministeri a Monza, ecco, tanto per dirne una. Grazie, questo è stato in effetti già detto. Grazie Maurizio da Biella, buonasera. Senta, io chiamo da Biella, ho 55 anni, devo dire riguardo all'assessore e anche riguardo al nostro dipendente onorevole di prima, dipendente perché noi siamo i nostri dipendenti, si attaccano un po' con le unghie agli specchi. Per questo motivo, per quanto riguarda il fatto appunto lì che lì a Cortina hanno fatto dei controlli, e guardo noi perché non hanno fatti lì altre parti, meno male che ci sono questi controlli. E riguardo al discorso che ha fatto su Monti, che ha fatto la festa privata, Capodanno con i parenti. Una cena, una cena. Ecco, io negli anni 70-80, io ero nei carabinieri, adesso faccio il camionista. Ero nei carabinieri, sono andato via perché ho visto le cose più grosse di me, in periodi della chiesa e via dicendo. Un mio collega che ho rivisto, ex collega, neanche tanto tempo fa, mi diceva, questo ragazzo fa, quest'uomo fa la scorta. Allora, fare la scorta a un Presidente del Consiglio come Monti, fuori, se decideva di andare a mangiare in un ristorante con i parenti, c'era 40 uomini di scorta, qui autocivetta nelle vie limitrofe, e poi con i parenti a rischio che vengano conosciuti di chi sono, da chi malintenzionati. Quindi ha fatto la cosa migliore con un costo minore, questo glielo posso garantire. Quindi questo è tutto. Sì, va bene, grazie Maurizio. Questa è un'osservazione in effetti che si poteva fare anche a Stiffoni e alla Lega, che per questa iniziativa, ripeto, interrogazione parlamentare, non so se andranno avanti per la cena di Monti a Palazzo Chigi il 31 sera. E salutiamo a questo punto il nostro prossimo ospite, Massimo Laratro, avvocato, rappresentante, uno dei tanti, di Rete San Precario. Se ne è parlato molto qualche mese fa dei precari, ora se ne parla un po' meno. Buonasera. Buonasera. La questione è questa, si sta parlando in questi giorni, e ci sono stati incontri tra il ministro Fornero e i sindacati, di una riforma di nuovo del mercato del lavoro. Insomma, i giornali sono pieni di ipotesi, si sa ancora poco. L'obiettivo è fare un po' di occupazione, ridare crescita all'economia italiana e anche, si dice, diminuire un po' il precariato, questo bacino di precari che ormai viene giudicato più o meno da tutti eccessivo. Voi che siete i precari per antonomasia, cioè vi siete organizzati, avete fatto manifestazioni, eccetera, fate parte di questa ripresa di tavolo di lavoro? Cioè siete stati prima di tutto chiamati a dire la vostra o no? No, assolutamente no, non siamo mai stati contattati né tantomeno indicati quali soggetti, appunto, portatori di determinati interessi. Anche se niente, poi, mai, nemmeno mai, qualche altra associazione, diciamo, gemella? No, nessuna associazione. Allora, la Rete San Precario è una rete, insomma, identificabile per, insomma, le manifestazioni e l'intervento che fa da anni nella precarietà. Io personalmente sono uno degli avvocati, insomma, che da anni segue i lavoratori precari, e noi come la Rete San Precario non siamo mai stati contattati da chi che sia, sostanzialmente. Mm. E quindi siete, diciamo, alla finestra. Gradireste, diciamo, di essere interpellati, oppure sono formule inutili questi dialoghi, queste cose che non servono a nulla? Qual è il vostro punto di vista? Ma certamente gradiremmo essere interpellati, visto che la precarietà, almeno l'abbiamo denunciata anni addietro, ancora quando di precarietà non se ne parlava. Basta ricordare la May Day, che è la manifestazione che avviene il 1° maggio a Milano, ormai sono oltre 10 anni che va avanti, e quindi, insomma, noi parlavamo di precarietà quando ancora il fenomeno veniva negato sia dai sindacati che dai partiti politici, siano essi di sinistra. Quindi, insomma, avreste i titoli per andare al tavolo col ministro Fornero? Sì, assolutamente. Anche perché, Laratro, quello che si legge spesso sui giornali è che i sindacati CGIL, CISL e UIL non fanno abbastanza per tutelare chi è fuori dal mercato del lavoro, chi è a metà dentro come voi, il caso dei precari, e quindi di una lontananza tra i precari e i sindacati. È così? Cioè, lei non vede... Allora, il problema è un problema grosso. Se mi è concesso, volevo fare soltanto un piccolo escursus storico. Cioè, negli ultimi 15 anni, anche per venire, insomma, all'oggetto dell'intervista, negli ultimi 15 anni sono state fatte una serie di riforme, dal pacchetto Treu, ricordiamoci, nel 97, alla legge Biagi e da ultimo il collegato lavoro. E tutti questi interventi sono stati fatti anche, diciamo, da una parte o con l'avallo del sindacato o senza che il sindacato facesse un'opposizione seria. Questo perché il sindacato già 15 anni fa, quando, insomma, si iniziavano a codificare fattispecie contrattuali atipiche, che poi sono quelle che hanno generato la precarizzazione sostanzialmente dei lavoratori, il sindacato ha, questo vale per ovviamente le sigle confederali, ha di fatto rinunciato a un intervento nella precarietà mantenendo il proprio intervento su quelli che erano i cosiddetti garantiti, no? Vabbè, però questo è un po' il passato, adesso magari le posizioni potrebbero anche cambiare. Per arrivare ad oggi, cosa succede? Che non avendo mai fatto un intervento serio nella precarietà, oggi si sono ritrovati che gli stessi lavoratori garantiti non lo sono più, e lo dimostrano i casi di Pomigliano, voglio dire, sono davanti agli occhi di tutti. È evidente che quindi c'è un vuoto di rappresentanza. Oggi i sindacati di fatto non hanno titolo per sedersi e discutere interventi per, diciamo, affrontare la precarietà, anche perché, diciamo, che si parte da un presupposto sbagliato. Oggi la discussione che viene fatta sia dai partiti che dai sindacati, dal governo e quant'altro, è che per aumentare la produttività delle imprese italiane occorre abbattere le tutele in favore dei lavoratori. Per esempio l'articolo 18. Anche l'articolo 18. E voi siete contrari? Assolutamente, ma il problema è... Cioè, che mi spieghi un attimo, voi non pensate in nessun modo che rendere più flessibile il contratto, per esempio nell'inserimento lavorativo, c'è anche la proposta del contratto unico, no? Con una gradualità nel tempo di flessibilità, all'inizio maggiore e poi minore, voi non ritenete che questo possa incentivare in nessun modo delle assunzioni? Allora, permettetemi, oggi esistono diverse fattispecie contrattuali, ricordiamo il contratto progetti, i contratti a tempo determinato, ok? Prendiamo i contratti a tempo determinato, ormai esistono da anni nel nostro ordinamento, sì. E di fatto vengono utilizzati, e ovviamente rappresentano un'eccezione, ricordiamolo che la fattispecie tipica di rapporto di lavoro è quello subordinato a tempo indeterminato, il resto sono eccezioni che sono determinate da varie esigenze. Quindi, ad esempio, il contratto a tempo determinato già c'è, sta di fatto però che le imprese lo utilizzano in maniera fraudolenta, tant'è che nella maggior parte dei casi questi contratti poi, una volta impugnati, vengono dichiarati illegittimi dall'autorità giudiziaria, ok? Oggi, come dicevo prima, non vi è nessuna connessione tra l'abbattimento delle tutele e l'aumento della produttività. Va bene, ma invece allora secondo voi qual è la vostra ricetta per migliorare la situazione e creare occupazione? Allora, il problema è che la produttività delle imprese italiane, la diminuzione di produttività o il problema della produttività delle imprese italiane è determinata da altri fattori e principalmente dal fatto che molti imprenditori italiani negli ultimi 20 anni hanno deciso di investire in rendite finanziarie e rendite immobiliari piuttosto che investire nel know-how della propria impresa. Quindi, diciamo, l'aspetto contrattuale secondo voi non c'entra nulla, non è un problema, non è questo il problema? Ma no, assolutamente, perché basta vedere, andare oggi nei call center, andare oggi nelle imprese del terziario e vedere qual è il livello di retributivo dei lavoratori. Quello che noi chiediamo è che, ed è importante affrontare il discorso, cosa quello che chiedete è una riforma organica del welfare di questo paese. Noi si continua a debellare a distruggere le tutele a garanzia dei lavoratori, sì. E ogni volta che si fa una riforma in questo senso nulla viene fatto per riformare il welfare di questo paese, che lontano anni luce e cosa, dal welfare europeo. Come lo riformereste questo welfare? Noi chiediamo, sì. E fondamentalmente è questo, cioè noi crediamo che il primo intervento che deve fare il governo sia nella sicurezza sociale, che bisogna fare un intervento riformatore del welfare. Sì, ma che vuol dire? Un reddito garantito, un reddito minimo garantito nei periodi di non lavoro, quando il lavoratore appunto tra un contratto a tempo determinato e un altro non ha la possibilità di accedere a reddito, sì. Che ci sia un'unica forma di intervento economico, che quindi riforma quindi gli attuali ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. Su questo il governo ha promesso qualche cosa. Un intervento poi a livello dei servizi. Noi crediamo che oltre all'erogazione di denaro nel periodo di non lavoro, i lavoratori, le persone abbiano diritto ad accedere a una serie di servizi, al di là di quelli ovviamente fondamentali che sono l'istruzione, la sanità e quant'altro, ma altri servizi come l'accesso gratuito alla mobilità, l'accesso gratuito alla rete, accesso a mantenere la propria professionalità ad un livello. Ma tutte queste risorse da dove pensate che possano essere prese? Noi assolutamente, innanzitutto se si facesse una riforma organica del welfare, azzerando gli attuali ammortizzatori che sono stati per anni fonte di sperequazione sociale, ricordiamo la cassa integrazione guadagni come è stata utilizzata negli ultimi 30 anni in questo paese, e tenendo presente che comunque lo Stato continua a dire di non avere denaro, ma ultimamente ha avanzato l'ipotesi di spendere 15 miliardi di euro per comprare degli F-35. Allora, secondo noi ovviamente ci sono le risorse. Vabbè, vanno cercate nelle pieghe del bilancio. Un'altra cosa le vorrei chiedere, visto che del sindacato abbiamo detto, del vostro rapporto con il sindacato, i precari e i sindacati in questi anni. Invece il ministro Fornero, cioè attualmente, come vi collocate? Più vicini alla CGIL, alla CISL o alla Fornero? Allora, noi non ci collochiamo né dall'una né dall'altra parte. Come dicevo prima, il ministro Fornero, così come l'attuale governo, è stato incaricato di salvare il paese. E la prima riforma che è stata fatta, ricordiamo, è quella delle pensioni, ok? Ed è stata venduta come un momento per eliminare i privilegi, come se chi prende attualmente 1.100-1.200 euro di pensione al mese sia un privilegiato rispetto a chi magari non la prenderà mai. Evidentemente c'è un dumping verso il basso, sì. Si continuano ad abbassare. Oppure, scusi, dico la mia, l'altro, oppure per diminuire i privilegi, oppure per liberare risorse da dare per esempio al welfare di cui lei parla. Ad oggi noi non abbiamo visto come verranno liberate queste risorse. Noi crediamo che la Fornero, così come l'attuale governo tecnico, sì. Sebbene sia stato incaricato, come abbiamo detto, di salvare il paese e quant'altro, noi riteniamo che, anche se non esplicitamente, siano comunque portatori di determinati interessi, e lo fanno l'ho dimostrato il fatto delle riforme che stanno facendo in questo momento, siano interessi che di certo non collimano con quelli dei lavoratori né tantomeno con la parte sociale. Meglio il governo Berlusconi? No, assolutamente. Allora, qui voglio dire, da una parte eravamo nel teatro del grottesco, cioè prima non era politica, adesso si sta facendo sul serio, perché evidentemente determinati interessi economici, quelli importanti, quelli finanziari. Cioè, quindi quasi bancari, peggio, perché prima era si scherzava e adesso invece si fa sul serio. Prima non è stato mai fatto nessun intervento e ci troviamo a questo punto proprio perché nessun intervento è stato fatto. Adesso la crisi si vuol far pagare alle persone a livelli della società più bassi e più deboli, quelli che effettivamente sono privi di garanzie. Grazie. Perché quello che sta avvenendo è quello. Grazie. Mi pare che insomma il concetto sia passato. È interessante comunque il vostro punto di vista. Ripeto, Massimo Dall'Altro, avvocato, rappresentante della rete San Precario, perché in effetti adesso che si riapre il dibattito sul mercato del lavoro si riproduce, su questo sono d'accordo con lui, il dualismo tra sindacati e governo, tra lavoratori tutelati e disoccupati, e non c'è una, come dire, manca un po' un filtro. Vediamo poi quello che verrà fuori da questi incontri e le misure che il governo Monti e la Fornero proporranno, perché per ora ci sono molte ipotesi, i giornali anche oggi sono pieni di schemini, contratto unico, contratto con flessibilità, articolo 18, però sono solo previsioni. Torniamo agli ascoltatori adesso, prima della pausa. Massimo da Roma, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì, la sentiamo, forte e chiaro. Buonasera, volevo fare un intervento sul rappresentante della Lega che è intervenuto prima, e sì. L'ex ministro Calderoli, che ha fatto questa protesta, diciamo, per interrogazione parlamentare per la cena di Monti. Dico, ma l'ex ministro Calderoli dove era quando il presidente del Consiglio, ex presidente del Consiglio, mandava in giro tutte le ragazze che lui frequentava con gli eri di Stato a carico dei contribuenti, chiaramente, e inoltre carabinieri e polizia scortavano e accompagnavano con macchine dello Stato, e quindi impegnando anche uomini dello Stato, carabinieri e poliziotti, accompagnavano queste signorine alle varie cene, alle varie feste. Come mai che il ministro Calderoli non ha ritenuto di intervenire nella passata legislatura? Questa è la domanda che vorrei fare all'ex ministro, se ce l'avessi davanti, perché forse perché stava al governo e perché non poteva esporsi di fronte al suo datore di lavoro? Questa sarebbe sì, Calderoli ha detto che Berlusconi spendeva i soldi propri, questa è la giustificazione che è stata data, non so se la soddisfa Massimo. I poliziotti e carabinieri che accompagnavano le veline, o come tali si vogliono chiamare, non penso che siano stati pagati da Berlusconi direttamente. Erano su macchine di Stato e sono state ampiamente documentate da fotografie, da interviste a poliziotti e carabinieri, quindi voglio dire, questo è assolutamente contestabile. Grazie, stasera record di ascoltatori da Roma. Marco da Roma ancora, buonasera. Buonasera, dottor Maurizi. Non lo so, spero di non deluderla presentandomi come uno dei pochissimi italiani ricchi. No, pensavo, ecco sì. No, è perché dovrebbe deludere me personalmente poi? No, perché in genere siamo abbastanza nascosti. Siamo tutti orecchie, perché sembra che siate introvabili e quindi... Ecco, no, infatti mi presento. Dunque, noi ricchi, cioè classificati come dal Ministero dell'Economia, IRPEF 2010, i contribuenti che hanno dichiarato oltre i 100.000 euro lordi di reddito, sì, siamo lo 0,9%, quindi ho i dati davanti, 394.000, pochini. Pochini, sì. E mentre diciamo da 0 a 40.000 euro gli italiani più sfortunati sono ben 38 milioni, quindi c'è una differenza notevolissima, e costituisco il 92%, mentre io faccio parte dello 0,9%. E ho dovuto un pochino faticare a miei figli, per spiegare ai miei figli la fortuna di avere un papà, tutto sommato, fortunato e ricco. Rientriamo in diretta tra poco con i vostri interventi. Di nuovo, ascoltatori all'800240024, prima titoli del TG1. Il premier a sorpresa a Bruxelles, domani a Parigi incontra Sarkozy e Fillon. Napolitano Monti dimostrerà che l'Italia è affidabile. Borse europee in calo, lo spread sale a 520 punti, Istat e disoccupazione all'8,6 ma inferiore alla media europea. A Roma caccia ai rapinatori che hanno ucciso padre e figlia di pochi mesi, la solidarietà alle due vittime cinesi, il ministro Cancellieri, lo Stato c'è. Arriva del Garda nel paese d'origine di Rick Santorum, rivelazione dei repubblicani americani, ricordi dei parenti che lo hanno incontrato. Freddo, vento e nevicate a bassa quota nel ponte dell'Epifania, l'ultimo delle vacanze, navi bloccate da e per, una brutta pagina, ormai è come la droga. Alla TG1 Marcello Lippi che dice: penso che De Rossi e Pato lasceranno un campionato italiano che piace sempre meno. Prima di tornare a Marco, il nostro ascoltatore di Roma, che ci stava raccontando a partire dalla sua esperienza le questioni legate al fisco, Marco un ricco dichiarato, almeno così ci ha detto, adesso lo riprendiamo. Un ascoltatore su Facebook dice: comunque è ridicolo, gli ispettori, Aldo si firma, gli ispettori dell'Agenzia dell'Entrata, Guardia di Finanza, si scoprono ora grandi segugi, ma la lotta all'evasione fiscale è sempre una priorità, o no? Che accidenti hanno fatto fino ad ora? Il fatto è che il fisco è schizofrenico, macchinoso e ingiusto. Tutto vero, Aldo. C'è da aggiungere però anche che il fisco si muove anche su indicazione politica, perché c'è sempre un ministero delle finanze, un ministero che ha una guida politica, e quindi chi non le dice che invece da quando c'è Monti proprio questo ministero siano state date indicazioni diverse dal passato su azioni come quella di Cortina, che si giudichi giustamente positiva o negativa, cioè giusta o sbagliata. Ma riprendiamo con Marco da Roma, prego. Eccomi, sono Enrico, e quindi come dicevo, sì, siamo meno dell'1%, no, in Italia, su una massa di lavoratori enorme, meno di 400. Diceva lei 394.000 che dichiarano più di 100.000 euro. Esatto. La variabile che volevo portare alla sua attenzione

non cerco la mondanità, né, a parte ripeto che ripeto, non potrei, ma soprattutto... Ma però la vacanza a Cortina se la potrebbe permettere, no? Io credo. La vacanza sicuramente, sì. Guardi, le ho detto, io sì. Sono tra lo 0,9% ricco dichiarato, ricco, poi giudichi lei, ripeto, ho uno stipendio netto di 4.000 euro al mese. Vabbè, grazie Marco, lei è stato così, diciamo che ci ha aperto questa strada, è uno dei pochi che fa questa missione, siete pochi, in più forse quelli che sono ricchi ma in maniera diciamo non onesta come nel suo caso non parlano naturalmente, manco a farla apposta, e quindi insomma una testimonianza rara se vogliamo. Titoli della 7. Nuovo fragoroso tonfo delle borse, ma soprattutto di quella italiana. Milano perde il 3,65%, peggiore d'Europa. Titoli bancari a precipizio, la Consob apre un'inchiesta. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi torna sopra 500 punti e sopra 525. Europa allarmata anche per la situazione in Ungheria, sull'orlo di una crisi democratica e del default finanziario. E di fronte alla nuova emergenza, missione misteriosa e in attesa di Monti a Bruxelles. È una tappa di lavoro importante, fa sapere il Premier, anche in vista della riunione di domani a Parigi sul nuovo trattato salva euro e dell'incontro con Sarkozy. Napolitano lo sostiene, l'Italia è affidabile. E l'Istat certifica la recessione e soprattutto la crisi del lavoro. A novembre la disoccupazione è all'8,6%, ma soprattutto quella giovanile è al 30,1%. Praticamente un ragazzo su tre non ha lavoro. Nel sud l'indice tocca quasi il 40%. Di fronte alle spese della casta, il governo fa un passo indietro. Decide il Parlamento, scrive Monti in una nota, ma continuano le denunce sugli sprechi. Uno stenografo del Senato a fine carriera arriva a guadagnare fino a 290.000 euro l'anno, un commesso di Montecitorio fino a 150.000, ma soprattutto i consiglieri regionali, come in Sicilia, hanno privilegi del tutto fuori controllo. E dopo il blitz antievasione, la cortina del penultimo giorno dell'anno, si allarga la polemica sulle agenzie delle entrate e sulle sue iniziative. Il PDL parla di iniziativa propagandistica, il sindaco di Cortina protesta, ma aumentano anche in maniera inquietante le minacce e gli atti ostili contro le sedi di Equitalia. Sono 167 nel 2011, 43 solo a dicembre, 11 adesso in questi pochi giorni all'inizio dell'anno. E caccia ovviamente ai due rapinatori che hanno ucciso ieri sera alla periferia di Roma, Torpignattara, un uomo cinese e la bambina di poco meno di un anno che aveva in braccio. Le vittime, padre titolare del bar, figlia appunto di 9 mesi, sono cinesi. L'uomo non voleva consegnare l'incasso di 5.000 euro, i due hanno sparato. Lo Stato è presente e lo dimostrerà, dice il ministro Cancellieri, alla fine di un vertice al Viminale. Venti e undici minuti di nuovo in diretta per questa porzione di programma, di nuovo tra poco con i vostri interventi all'800 24 00 24. Prima però diamo il benvenuto a Lara Comi, europarlamentare del PDL. Buonasera. Buonasera a voi. Autrice di una iniziativa che l'ha portata nel negozio, abbiamo parlato anche noi qualche sera fa di quel calzolaio in centro a Varese che aveva messo un cartello sull'uscio: i politici qua non possono entrare, anzi il cartello era: se non entrassero io ne sarei grato, quindi era molto delicato. Poi però l'ha ripreso Grillo, tra l'altro ci ha messo sopra due chiappe, insomma, questo è quello che ha fatto Grillo, e il cartello diciamo poi è andato sulla rete, ha spopolato e tutti a dire di nuovo la casta e i soliti discorsi. Lei perché è voluta andare a infilarsi in questo ginepraio, signora Comi? Forse per fare come facevano i politici una volta, andavano porta a porta a prendere ogni singolo voticino per cercare di recuperare il rapporto con questo elettore? Ma guardi, io essendo eletta con un sistema preferenze è mia abitudine essere sul territorio e quindi andare porta a porta a, non le dico assolutamente recuperare voti, ma piuttosto cercare di capire quali siano le esigenze, ma anche perché le elezioni io le avrò tra 2 anni e mezzo, quindi non era assolutamente l'obiettivo elettorale. È stato istruttivo il colloquio con... È stato molto, molto, molto utile per il fatto che lo stesso commerciante, come tanti altri, fanno di tutta un'erba un fascio. Quindi quando lui ha detto io parlo dei politici in generale, non ha saputo poi giustificare effettivamente il perché e il per come lui avesse messo quel cartello. Cioè c'erano alcune dinamiche che lui non conosceva il fatto che ad esempio gli europarlamentari si sono ridotti del 50% lo stipendio a partire dal 2009, non sapeva di un sistema a preferenze per alcuni parlamentari e per altri, perché io su quello mi sono sentita in un certo senso offesa da quel cartello, perché è una sorta di razzismo nei confronti dei politici, di discriminazione nei confronti dei politici. Quindi non è quel fatto di entrare in un ginepraio, io ritengo che non sia assolutamente corretto nei confronti di un cittadino, perché il politico è un cittadino, e discriminarlo per il fatto di essere un politico non lo ritengo. Sì, in realtà poi lui, noi l'abbiamo intervistato qualche sera fa, non è che facesse di tutto un'erba un fascio, cioè sì, però tranne Grillo e i politici dell'area di Grillo. Non perché mi sembra poi Grillo che non sia un politico attualmente, sì, perché nel momento in cui si presenta... Infatti questo gliel'ho detto anch'io, sì. Certo. Ma invece, venendo al discorso, lei ha detto che vi siete ridotti lo stipendio, quant'è lo stipendio dell'europarlamentare? Più o meno alto adesso di quello del parlamentare italiano? Ma allora, ci sono proprio due metodi totalmente diversi. Ad esempio, gli assistenti nostri, per farle un conto, perché è anche difficile confrontarlo, gli assistenti di un parlamentare europeo sono pagati direttamente dal Parlamento europeo e quindi non rientrano nel budget, diciamo, dello stipendio del parlamentare. Ed è quello che si punta forse a fare anche in Italia, non so se ha letto il dibattito sulla... È utilissimo, anche perché hanno una propria assicurazione, una propria assistenza sanitaria, hanno anche dei vantaggi fiscali, soprattutto in Belgio, per l'acquisto anche di prodotti, di elettrodomestici. Ma perché secondo lei, Comi, non si è fatto fino ad ora? Non è che noi abbiamo parlato con l'ex portaborse assistente di Scilipoti e su questo argomento, non è che la resistenza sono proprio i parlamentari che in pratica dovrebbero rinunciare ad una forma di emolumento indiretta, perché è chiaro che se non pago l'assistente o non lo pago del tutto mi tengo in tasca una parte della somma, altrimenti perché non è stata fatta sino a questa cosa che, come lei ci conferma, in Europa è normale? È normale, ma le posso dire anche che noi stessi abbiamo votato una riduzione del 50%, quindi su quello, quando le cose si vogliono fare, si possono fare. Quindi c'è una mancanza di volontà in Italia da parte dei suoi colleghi parlamentari. Ma secondo me è un insieme di fattori, come io sono favorevole anche a una riduzione del numero dei parlamentari, per il semplice fatto che noi in Europa siamo circa 728, poi c'è stato un aumento anche col Trattato di Lisbona, e rappresentiamo 27 paesi. In Italia siamo circa 1000 per rappresentare solamente l'Italia. In Europa siamo 72 parlamentari, adesso con l'aumento c'è qualche parlamentare in più per il Trattato di Lisbona, siamo 72 parlamentari che rappresentano l'Italia. Ho visto nel video, perché lei si è portata dietro qualcuno con una telecamera che ha ripreso il dialogo col commerciante, no? Così, questo mezzo battibecco col commerciante di Varese, che poi siete finiti a parlare di evasione fiscale e tutte e due concordavate sul fatto di pescare, bisogna andare a prendere i grandi evasori. Di nuovo in diretta con Lara Comi, europarlamentare del PDL. Ripeto, nel video che io ho visto, che è stato postato su diversi siti, credo anche sul Corriere, del suo incontro con il commerciante di Varese, se siete finiti a parlare, perché lei gli ha detto: allora lei generalizza sui politici, io generalizzo sui calzolai che sono tutti evasori, e di lì siete finiti a parlare di evasione. Il video è stato tagliato perché durava 40 minuti. Vabbè, quindi... meno male, perché sennò... No, ma per dire che comunque per arrivare a questa affermazione io ho detto: lei non può generalizzare, perché è come se io dicessi che tutti i calzolai sono evasori. E la risposta sua è stata esatto. Gli ho detto: vede che quindi cioè, dà fastidio a una persona essere generalizzata, perché può sbagliare uno o due persone e allora tutto il mondo sbaglia. Cioè non è così. Non lo poi però appunto, ecco, questo diciamo per quanto riguarda lo sviluppo della vostra discussione. Ecco, e lì mi sembra che fosse tutte e due d'accordo sul fatto dei grandi evasori, no? Perché poi è un po' quello che si dice sempre: non bisogna pescare i piccoli, soprattutto se uno parla, un politico che parla con un commerciante, un calzolaio che è evidente che per quanto possa evadere sicuramente non sarà mai un grande evasore, però insomma, e allora i grandi evasori? E allora il discorso, la domanda viene spontanea, hanno fatto bene allora le guardie, la guardia di finanza, gli agenti del fisco ad andare a Cortina, dove presumibilmente non ci va il calzolaio, ma ci vanno anche e soprattutto persone che guadagnano molto di più, perché so che il suo partito invece è abbastanza contrario a questo. Ma guardi, io ritengo che l'evasione, sia piccola sia grande, deve essere eliminata, quindi non posso giustificare il grande e non posso giustificare men che meno il piccolo. Perché è una allo stesso livello, insomma, sì, tutti e due, tutti e due comunque evadono, uno in modo più grave, come se uno ammazzasse 10 persone e l'altro ne ammazzasse uno. Però la ratio dell'Agenzia delle Entrate, qualcuno ha cercato di spiegarlo anche sui giornali di oggi, da questo punto di vista mi sembra comprensibile, cioè detto che non si va a controllare soltanto a Cortina, ma si va anche in altre località, si fanno tutta una serie di controlli. Però è evidente che se lì sappiamo esserci una concentrazione di... Esatto, di persone che hanno un potenziale... hanno fatto bene. Quindi, perché per esempio il Cicchitto, che è un esponente del suo partito, ha usato parole invece di fuoco, ha detto no, una cosa di propaganda su base ideologica, eccetera. Lei questo non lo condivide, un po' troppo forte. Guardi, a me piacerebbe che lo facessero anche in altre località, cioè che non sia solamente Cortina. Se a Cortina hanno riscontrato delle evasioni, hanno fatto bene. Se le riscontreranno a Milano, faranno bene anche a Milano. Se le riscontrano a Roma, faranno bene anche a Roma. Cioè, brava, io le farei un applauso, perché non è quello un problema, cioè il problema è trovarli. Sì. È più quello che a volte mi pongo il dubbio, che penso che sia facile trovare il grande evasore piuttosto che il piccolo. Il fatto è quello che le ripeto, se io che sono il fisco becco il grande evasore, probabilmente recupero al fisco una quota maggiore di quella che recupererei col piccolo. È per quello che si punta sul grande, ma è matematica. Col calzolaio alla fine, quindi eravate d'accordo, sì. Non giustifico né il grande né il piccolo evasore, perché comunque si va contro la legge. È naturale che se a Cortina hanno ritrovato degli evasori, devono essere puniti a Cortina, come verranno puniti a Milano, come verranno puniti a Roma. Il problema sta anche nella mentalità, perché se iniziamo a giustificare il piccolo evasore, non ce la caviamo più in questo senso. Cioè, si viene questo a creare veramente vero, certo, un vortice che non fa bene né al piccolo né al grande, ma soprattutto al consumatore. Ho visto che poi alla fine le voleva regalare le chiavi addirittura, cioè era partito, non la faceva entrare, poi era riuscito a coinvolgerlo, a convincerlo al punto che le voleva regalare le chiavi, non so se per mandarla via o se per farle un regalo alla fine di questa conversazione. Io ho fatto un ragionamento molto chiaro, cioè la differenza che può esistere tra un politico, un manager o un dipendente pubblico è la seguente: che il politico, se al cittadino il politico non piace, ha la libertà di votarlo o non votarlo. E quindi questo implica essere eletto o essere non eletto. Se c'è un determinato commercialista o un medico che non piace e ritengo che non lavori bene, io posso non andare, ma rimarrà sempre un commercialista o un medico. La facoltà che ha il cittadino, che ha una grande libertà, è quella di votarlo. Io, avendo un sistema preferenze come altri tanti miei colleghi, potrò essere benissimo eletto come non eletta, nel momento in cui lavorerò bene o lavorerò male, il giudizio sarà sui cittadini. Quindi questa continua cattiveria nei confronti dei politici, posso dirle che un po' dà fastidio, perché io potrei fare anche una provocazione, anzi sarebbe una proposta utile. Benissimo, il politico non ha uno stipendio fisso, non viene dato uno stipendio fisso, ma viene pagato per le ore che lavora. Per me va benissimo, anzi guadagnerei io assieme anche altri colleghi molto di più di adesso. Da considerare anche che il politico, se fa bene la propria attività, deve fare un lavoro solo. Posso dire una cosa io a questo punto, onorevole Comi? Certo. Questo vento che gira negativo intorno ai politici, questo che lei dice che è sgradevole, sa che ci sarebbe molto meno se molti politici parlassero più come ha fatto lei questa sera che non come ha fatto il suo collega di partito Mazzocchi qualche sera fa, il questore della Camera, che sulla questione per esempio degli stipendi dei parlamentari si è arrampicato sugli specchi dicendo che no, non è vero, mettiamo pure che guadagnino come nella media europea, siccome l'Italia ha un PIL pro capite più basso, già questo sarebbe un motivo per abbassarli leggermente o per fare per esempio quello che diceva anche lei, passare ai compensi per gli assistenti pagati direttamente dalla Camera e dal Senato agli assistenti, anziché transitare per le tasche dei parlamentari. Ecco, mi permette anche una precisazione. Io ho lo stipendio dal Parlamento Europeo, il mio stipendio è uguale rispetto al mio collega rumeno e al mio collega bulgaro, che onestamente hanno un costo di vita totalmente diverso. E questo è un altro punto, d'accordo. Però io dico, è un altro discorso. Sì, io quello che volevo dire è questo antipolitica ci sarebbe meno se più parlamentari, più politici parlassero, come ha fatto lei questa sera, che ha espresso un'opinione non in accordo col capogruppo a Roma, Cicchitto, che secondo me su questa cosa di Cortina ci è andato giù un po' pesante. Ha detto le sue opinioni, ha argomentato. Ecco, ripeto, questa sua intervista di stasera, secondo me, fa, come dire, non dico piazza pulita, ma riporta un po' di come dire, di opinioni a vostro favore, perché se uno viene qua e nega tutto, si arrocca su tutto, come ha fatto quella sera lì Mazzocchi, lei doveva vedere quanti messaggi, glielo dica se lo vede, visto che è un collega di partito, e quante email. Tutti disperati. Ma no, ma ognuno può esprimere per carità la propria opinione. Io onestamente faccio politica per passione, perché mi piace, ma ritengo che sia un mio dovere rispondere ai cittadini, ma anche perché il sistema preferenze ci aiuta molto in questo senso, non con un sistema clientelare, non è quello il ragionamento, perché io potrei farmi rivedere tra 2 anni e mezzo agli elettori, non è quello il problema. Il problema è quello di capire la realtà e quello che le persone vogliono. Questo continuo blocco, questo continuo muro coi politici non serve. Io al calzolaio che ho anche detto, io ti ammiro per il lavoro che fai, perché è un lavoro che un ragazzo di 35 anni fa come artigiano, che ne abbiamo pochissimi in Italia, quindi gli ho anche espresso tutta la mia solidarietà. Il problema è che andando sempre contro i politici non risolviamo il problema, la crisi c'è comunque, continua comunque, iniziamo un dialogo. Io questo è quello che ho proposto al calzolaio, nel filmato non si è visto, ma si è visto anche scherzosamente. Io la ringrazio, buona serata, la raccomando. Grazie. Parlamentare, buona serata ancora e buon anno a questo punto, già che ci siamo. Ancora qualche breve minuto per, credo, un paio di interventi. Cominciamo con Gianluca D'Arezzo, buonasera. Buonasera, salve, mi sente? Sì, prego. Allora, volevo fare una premessa. Praticamente dobbiamo combattere l'evasione fiscale. Esistono già delle risposte presenti in altri paesi. Io sono responsabile commerciale estero, viaggio e vedo i modelli fiscali degli altri paesi. Prendiamo il modello taiwanese. Per invogliare, non penalizzare le persone a prendere gli scontrini, per invogliare a prendere gli scontrini fiscali, che si è inventato il modello taiwanese? Inserire i numeri del lotto sugli scontrini. Hanno fatto nel 2 anni fa i numeri del lotto sugli scontrini fiscali. In Italia esiste una legge, si chiama comma 6b, che uscirà fra poco, che imporrà un nuovo misuratore fiscale dove si potranno giocare il resto. Cioè io vado lì e dico, senta, mi dia un pacchetto di sigarette, vuole il resto? No, mi gioco i numeri del lotto. Invece di fare questo, imponiamo l'emissione di numeri del lotto su ogni scontrino fiscale. Cioè, così uno è incentivato a volerlo, chiaro. Questo succede a Taiwan. In Italia, continuando la mania in Italia, lo prenderebbero tutti, dalle gomme, le caramelle, al più grosso elettrodomestico. Ma questa, sai, è una cosa geniale. Questo accade a Taiwan. A Taiwan, il modello di Taipei, a Taipei ultimamente hanno guadagnato 50 miliardi di dollari di evasione fiscale. Cioè io spero che Monti sia all'ascolto, non lo so, qualcuno ma no, ma io le dico un'altra, perché bisogna girare, perché qui, allora i nostri politici mediocri, inutili, non sanno, non vedono, resto, vanno all'estero solo per le vacanze. Allora ne le dico un'altra, ancora più bella. Questi albi, allora, un dipendente per un'azienda privata, l'azienda privata è sostituta di imposta, giusto? Quindi non si può evadere, tutti i dipendenti frustrati pagano tutto, benissimo. Esistono gli albi, commercialisti, notai, avvocati, medici, li riformiamo, li togliamo, non li togliamo, riformiamoli, l'albo sostituto di imposta. Lo Stato, invece di andare a agire su milioni di partite IVA, milioni, pretende dall'albo, con gli studi del settore che già ci sono, i soldi, e quindi fa un intervento sull'albo, e l'albo si attiverà internamente, creando anche lavoro con nuovo personale, di recuperare i soldi da tutti gli iscritti. In caso in cui non recupera i soldi, viene radiato dall'albo, e tra di loro i vari professionisti si guarderanno a chi contribuisce di più o di meno. Terza cosa, che è la cosa più intollerabile di tutte, mentre io l'avvocato e il notaio me lo scelgo, anche se mi viene imposto il notaio, è il discorso del medico. Cioè la fattura evasa dal dentista, dal professionista, dal supermed, dottore, si può eliminare in due secondi, introducendo il CUP, centro unificato di prenotazione, per tutti in modo universale. Cioè se io vado dal dentista, io per legge devo andare da un CUP, creo posti di lavoro, gente col center 24 ore su 24, obbligo di prenotare tramite il CUP. Di qual è la conseguenza? Se non vieni beccato una persona che esce dallo studio che tramite senza prenotazione CUP, radiazione dall'albo. Gianluca, un fiume in piena, abbiamo finito però per questa sera, non abbiamo più tempo. Sì. Ottimi e abbondanti. Mi dispiace, volevo sentire le sue idee, le sue suggerimenti. Vabbè, adesso non c'è tempo, magari domani la richiamiamo se ha ancora altre notizie così da raccontarci sulle sue esperienze in giro per il mondo. 20, 28, 30 secondi è tutto per questa sera con la Zanzara, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana. Buona serata a tutti.